appena alzato. Mi sono fatto poco fa, mi stavo facendo la doccia, sono un po' stanchino oggi. Queste giornate fiacche che ci sono, belle giornate, sono belle giornate, io non mi sto approfittando per chiudere qui, se no sei andato a pescare. Ma lei dalla banchina te lo posso fare, ma adesso dice che stanno castagnando un bel dalla banchina, lo sa. No, avete deciso dove andare domani? No, io non ho deciso nulla, stavate decidendo voi, non lo so. Beh, una cosa vale l'altra. Domani intanto, domani è venerdì, no. Domani devo andare anche a fare l'americazione. E ora andiamo a fare l'americazione, non andiamo alle 7 di sera. C'è un sistema di cani, prima io alle 7 e mezza devo portare a Filippo, poi sono libero. No, vado di mattina a farla, no, perché me ne stavo dimenticando, non perché dovessi avvertire. Oh, andiamo. Se riuscite che ci divertiamo, se andiamo lì a Pedaniera c'è anche musica. Andiamo a Pedaniera, da Giovetti Vico, non c'è un problema, l'importante è andare. Andiamo per la niente, va bene. Solo come volete voi, non c'è problema. Io stavo proponendo per stare un po' in allegria. Perché quando ci sono le cose del karaoke, cosa, si mettono tutti a cantare, è un bel forte. Io sono stato, vabbè già lo sai, no, con chi? E praticamente ci siamo divertiti un bel, cantevamo, ma non a cantare a microfono. Quando cantano cose canti anche tu, capito? Tutti in grefa cantando, uia, a squarciagola, troppo forte. Ehi, vabbè, però cerchi non era tutti nunca di cantare. Vabbè, ma poi lì so che iniziamo tardi a cantare, a fare karaoke, non lo so. Bisogna, per venerdì bisogna telefonare lì, sennò c'è posto, capito? Vediamo, stasera siamo in radio, vediamo cosa decidiamo, se andare lì o andare a mangiarci due ciuffi di fanili a un cernacchio, vediamo un po', ci deciderà stasera. Una cosa vale l'altra, qua, c'è problema. Vuol dire che a fare karaoke ci andrò con chi le piace. Voi oramai non vi piace più, mi si gode. Io ancora sono della mentalità giovanile. Giovanile o vecchio, se uno non vi piace cantare, non canta. Io non mi sono mai andato a fare karaoke. Era giovane, era grande. Tu me ci sei andato prima, poi a casa tua c'è sempre stata la passione del canto qua. No, non ce n'è, quindi no, non ti posso dire che sono appassionato. La musica mi piace, macchina, ascoltarla a casa, no. Non ho quella passione di capito. Non è questione di mentalità giovanile o di vecchiaia. Perché o ti nasce o niente. A te se o che ti piace perché hai anche a casa quella passione. Qua invece no, capito. Noi non ne abbiamo di impianto qua da sentire musica, da fare, capito? Non ci è mai interessato. E oramai chi sostituisce gli impianti ci sono gli stereo, ci sono i computer che sostituiscono gli stereo con impianti mega galattici. Io c'ho un impianto della, come si chiama? Del computer, che se senti la musica va in discoteca, c'ha su 204. No, io non mi è mai interessato, la verità già, né la musica poco, forse ti ripeto perché non sono mai stato appassionato, neanche a casa di mamma, niente, no. Così, accendevi la radio, ascoltare un po' mentre eri lì che ti preparavi per uscire, ecco perché non mi interessa, tutto lì. Vediamo se c'è Marco Condori in ascolto. Marco, quello del cosa. Diciamo che... Ma non è questione di cambiare il microfono, perché il microfono anche a me mi dà fastidio quando va tagliato. Da solo a casa sì che canto, ma la mattina ti sono un po' imbarazzato. Mi piace cantare in greppa, così, quando cantano gli altri, oppure ascoltare, capito? Ascoltare io, figurati che la mattina quando prendo la macchina di lavoro, tutti assieme allo stereo, io viaggio senza radio già, ascolto il giornale radio alle 7 e poi spengo perché no. Non mi piace la brutto, capito? No, assolutamente. Non c'è passione, perché è una questione di mentalità. O ti nasce una cosa e ti piace, la porti avanti, o se no lasci perdere, capito? Non ti fa compagnia la radio viaggiando, cazzo tu? No, già io quando mi siedo in macchina ho la testa preparata per dove sto andando, cosa devo fare, poi io dalle 7 di mattina sono già a telefono in mano, già altre musiche, telefono in mano, organizzando, vedendo se tutto è già a posto, perché se c'è un programma da rispettare io la mattina, capito? Già io da oggi so quello che devo fare domani e quindi non è questione di ascoltare musica. E la gente comincia le prove dei telecontrolli, elettricista e quello e quell'altro, e materiali e bim bum bam, già. Trovo diverso il mio, capito? No, io posso stare a ascoltare musica. Telefono squilla, ti immagini che io da socio a Vidalba minimo sto 4, 5, anche 6 volte al telefono, commissione in macchina, auricolare, Bluetooth, sto viaggiando, brin, brin, brin, sempre il telefono, Mamma mia, lo dirai, cazzo, come quando io facevo l'autista, ogni 2 secondi mi squillava il telefono. Infatti io il telefono, quando lavoravo come autista, lo odiavo, a casa lo usavo dentro un comodino, dentro un caraccio, e non lo toccavo da lì, perché ti dicevo, cazzo, ti ho telefonato, non mi ha risposto, perché proprio lo odiavo il telefono. Invece adesso che non lo sto più usando da poco, il telefono ce l'ho sempre appresso. Io lo so già, io ne ho 2, capito? Il mio lo accendo, è acceso lo stesso dalle 6:30 del mattino, è acceso, fino a quando mi corico le 11, mezzanotte dipende, ma quello là è sempre acceso, non spenga mai, è sempre acceso, sempre, e quello viaggio è quello, provetto. Ogni 5 minuti è drin, è drin, e colleghi, è qui, è là, è la direzione, è il magazzino, è l'elettricista, è il referente, capito, il meccanico, perché io sono anche i mezzi come responsabilità della mia zona, quindi è meccanico, guarda che mi ha fatto questa macchina, prendi questo numero di targa, c'è a fare questo e questo, fare la comunicazione di Gimplan, e ti chiama la Genovese Gomme, la macchina anche a cambiare gomme, metti la numero di targa, voglio i chilometri, voglio, c'ho tutte le tabelle, c'ho una cacciata di carta e macchina di cartelle già che lascia aperta, adesso che ascolta musica, per quello ti ho detto che quando io non sono a lavoro, per me deve essere un rilassamento, si commenta un gabbo a mi copia da voi, capito? Basta attaccare la spina, vado a tornare a casa e non pensarci, e invece tu ci portiamo il lavoro a casa, così mi hanno sempre rimproverato a me, perché io pensavo al giorno dopo, ero così come te, c'è da fare questo, arrivare a quello, c'è da sistemare quello, capito? Invece quando uno finisce il lavoro deve staccare la spina e fa finta che non, solo che se ce l'ha per carattere è quella la ragione. Minchia, no, io c'ho per carattere il mio lavoro, io anche sono a casa e l'altro giorno tu non c'eri, ero in radio 2 volte, ho mollato e sono uscito, prima sono andato a Danieda perché dovevo dare della documentazione per i materiali che erano già arrivati, quindi mi hanno dato il packing list, sono venuto a casa, mi ho scontato tutto il packing list, ho fatto una foto e l'ho mandata al mio responsabile, capito? Andiamo lì e uscino, anche se sono a casa, se c'è qualcosa che mi devono comunicare anche di pomeriggio o di sera, me lo comunicano lo stesso già, capito? su WhatsApp di roba che domani mattina devo preparare per un impianto che stanno facendo i lavori. E uscì, a volo della va. Lo so. Ogni lavoro ha le sue problematiche, normali. Io devo rispettare orari, devo rispettare le consegne, eccetera, eccetera. Se no c'è un casino perché c'è una persona che applica la posta per scaricare la merce, tipo carica, tutta quella gente lì, che applica la posta alla sede per scaricare, qui dovevi essere puntuale, organizzati il lavoro, se poi ce n'era un'altra dovevi organizzarti più o meno, dovevi capire quanto ci metti per scaricare una cosa, per scaricare l'altra, e dovevi organizzare più il lavoro, c'era poco da fare. Adesso non mi piace più, no, guarda, dico la verità, non mi piace più. Lo so già, io ho molte responsabilità negli impianti, tantissime. L'azienda, se c'è un problema, se ne scarica. Se sei tu, sei responsabile, tu ti devi arrangiare. A me a volte mi arriva perché l'altro non ti avvisa, capito? Quindi devi essere pronto, gli impianti devono essere tutti a norma, tutti regolari, perché se c'è qualche anomalia che tu non hai eseguito, non hai fatto, non hai risolto, soprattutto, più che altro, l'azienda ti fa la comunicazione scritta, ti fa la lettera, senza fare, loro prendono colpi, sono molte salatissime nei controlli dell'ARPA, capito? Quindi io ho grandi responsabilità negli impianti, grandissimi, i formulari sono come le vecchie bolle di accompagnamento per noi, se sbagli un formulario sul trattamento fanghi e ti vengono in ore, ti chiedono l'impianto già, mi sia a casa, non è facile, però io ci sono tanti anni, il mio lavoro è questo e cerco di farlo nei modi più, insomma, migliori, però sai, qualcosa ti può sempre sfuggire, devi stare con gli occhi molto aperti. Se poi ti capita come a me che sto perdendo la memoria, cazzo, non mi ricordo più il conto, una cosa, poi per dire devo fare un inventario, no? Conto quanto c'è a piano in ogni pedana di acqua, per dire, e poi lo moltiplico per sì perché sono 6 bottiglie e poi lo moltiplico ancora per il numero dei piani, no? Beh, a volte mi faccio il conteggio perché lo faccio a memoria, no? Se lo faccio con la calcolatrice non mi sfugge, ma se lo faccio a memoria a volte mi dimentico quanto so, te lo immagini dopo 5 secondi. E già, forse è stato solo quello. No, io grazie a Dio memoria ne ho un bel, non ho problemi. Matematica ancora me la cavo benino, il problema è la vista, mi sta mancando molto la vista, quindi ho 2 paia di occhiali, uno da lontano, uno da vicino, ma per lui fosse solo quello già. Io trasformo i metri cubi giornalieri, i metri cubi ora, ci sono tutti i pesi specifici del coro, tu che lavori nel commercio dovresti anche saperlo, ma noi lavoriamo anche a pesi specifici, capito? Perché se abbiamo le pompe dosatrici qui dobbiamo sapere quanto stiamo dosando per chilogrammo per metro cubo giornaliero. Già ci sono tante cose, credimi, che non è molto facile, io devo rispondere a tutte queste cose, però ho tutto scritto perché noi abbiamo un registro di conduzione, capito? Quindi va tutto scritto, c'è un registro di analisi, va tutto scritto, ci sono tutti i registri per le ore di funzionamento delle pompe, in un impianto ci sono tantissime pompe, capito? Tutte le valvole di ritegno, valvole farfalla, valvole di dutto, già, è un casino, però grazie a Dio ancora me la cavo, memoria e a tutto. Il problema è che mi sta mancando un po' la vista e ogni tanto qualcosa non la vedo e mi sfugge, capito? E qualche volta è successo che ho avuto qualche richiamo dall'alto perché devo stare più attento, però purtroppo non è che posso dire di no, non vi leggo. Ehi, quando bisogna di cose da fare, qualcuno ti può sempre sfuggire, no? No, vabbè, io diciamo che quando guidavo mi organizzavo tutte le consegne, poi avevo 10 consegne, senza scrivervi nulla, mi organizzavo il lavoro da solo con la memoria e basta. Poi ho cominciato, dopo che ho mollato, non mi succede sempre, però qualche volta mi succede, capito, che abbia questa amnesia e di colpo non mi ricordo che cosa ho contato, capito? Quello già può succedere. No, io, mamma mia, tante cose sono da fare già. Io seguo tante cose, perché ho un impianto e sono tante cose da seguire, tantissime. Tutti gli agenti che vanno seguiti, controllati, fatti, ogni carico va campionato, portato in laboratorio, scaricate tutte le bolle. Ehi, già nel peggio di fare un magazzinino, abbaite, lascia aperte. E poi tutte le cose sono da fare nella conduzione. Però, ti ripeto, sono abituato, io ho 6 impianti grossi con un trattamento di tutto, quindi 6 depuratori molto molto grandi, da oltre 800 metri cubi al giorno di ingresso di liquame, con tutto il trattamento che c'è, e poi ho tutti i sollevamenti che ne ho 6, ma il problema è che sono tutti paesi diversi, capito? Devo cammellare, perché in 6 ore e 40 a volte qualcosa non la fai perché non ce la fai, non c'è il tempo tra viaggio, spostamenti, chi ti chiama a destra, chi ti chiama a sinistra, è arrivato quello all'improvviso, quindi lo devi seguire, tante cose ci sono, che però, ti ripeto, ribadisco, oramai l'abitudine è tale che riesco a gestire un po' bene la cosa, però quando arrivi a casa sei fuso, non quando dava. Tutti quanti hanno, anch'io ho i miei compiti, per dire riempire la zona automozione, se per dire manca roba degli scaffali, mettere roba degli scaffali, riempire tutti i posti di vendita, a volte sono da solo che lo faccio, quindi poi arrivano a scaricare, devi controllare lo scarico, non è che scarichi tu, però a volte si usa il muretto per scaricare perché sono pedanti, devi controllare lo scarico, mettere la roba bene, sistemarla, eccetera, e insomma già c'è anche lì da fare, diciamo che magari il lavoro non è di responsabilità come il tuo, però anche da noi c'è, e diciamo che la responsabilità ce l'ha quando vedi i mezzi tipo muretto, eccetera, eccetera, devi stare molto attento. L'altro giorno cazzo mi è passato un collega mentre stavo passando la pedana sotto, cazzo, e mi fa già, passi davanti quando io sto manovrando, ma dimmi, ma com'è che c'è un capo negozio, ti ha detto, forse, ti ha detto, stai sbagliato a passare lì, quando c'è il muretto in manovra, lo devi passare, e vado in fretta, e si ha in fretta, che ti fanno così. Noi fortunatamente non abbiamo di queste cose, quando ci sono macchine in manovra, noi ci fosse lo scavatorino o qualcosa del genere, ma allora si sta attenti perché è tutto recintato, è tutto transennato. E così è, già, allora da voi, da Bogomi, l'azienda, perché arrivano le fatture dell'Enel, e poi miliardi paga di luce. Quindi vogliono tutti i giorni le letture dei contattori Enel, attiva e riattiva, capito? Devi trasformare tutta la lettura dell'attiva, tutti i totali, puoi fare per differenza il giorno dopo e scrivere quanto è il consumo dell'attiva, quanto è il consumo della reattiva. Certo, ti dico che ogni giorno aggiungono ed è tutto calcoli, è tutta calcolatrice. Io sto tutta la mattina con la calcolatrice in mano, vende in calcoli e si rivende, tutti di lì, c'ho anche il calo nel dito dove sto sempre a pigiare con la calcolatrice. No, io ancora mancavo fare i conti, vabbè, se quelli saranno sicuramente i conti grossi, ma diciamo qualche conticino me la faccio a memoria, però adesso ultimamente te l'ho detto, un po' sto perdendo, non mi viene l'Alzheimer. Già, con 15 di usci, 10, 20, 30, 50, manco quello mi corre che trovato ancora, grazie a Dio, matematica già me la cavo, stiamo parlando di 58.000, 60.000, 50.000, 452.000, capito? Cioè, conti assurdi, capito? Non so se tu l'hai mai visto il contatore, non quelli che si tu vai sulla dove c'è il tuo attuale, poi lì dici, no, e fa A, capito, A1, A2, A3, poi R1, R2, R3, quindi noi abbiamo un foglio già prestampato dall'azienda dove c'è scritto Enel, lettura Enel, tu scrivi lì e devi fare i conteggi tutto prima dell'attiva, poi della reattiva e scrivere quanto ha consumato l'attiva e quanto ha consumato la reattiva, capito? Di solito l'attiva sempre più della reattiva, può capitare che sia a verso contrario, quindi c'è qualcosa che l'impianto non va bene, che ormai sta consumando più la reattiva che l'attiva, vuol dire che c'è qualche macchinario che ha troppo assorbimento, quindi via, chiama l'elettricista con la pizza perometrica, controlla tutto, ti dico che già arrivi con un gabbo a bombuglioni. Questo basta non senti a tutto, anche il consumo della luce del bivecchio. Osservate facendo quei conti, allora non gli risulta, capito? È normale che devi stare un bel attento facendo quei conti lì, perché poi alla fine fanno vedere la bolletta, se non lo guardano, protestano magari, cazzo, fare i conteggi e sono sbagliati. Ma infatti noi i conteggi io ogni giorno li scannerizzo col telefonino aziendale e li mando al responsabile che riceve tutta questa documentazione, lui mette al computer, capito? E poi a fine mese vasi, clic, esce il totale. Allora mi chiama, quanto ti ha dato l'impianto della Marinedda come consumo di attiva? Per dire 580.000 e rotti. Sì, ok, no, qua c'è, però aspetta, come mai? Allora vai a controllarti in data, cazzo, ti dico, a volte mi tengono mezz'ora al telefono per controllare queste cose, perché mensilmente io faccio le relazioni per intero di tutti gli impianti, impianto per impianto, relazioni intere, vuol dire tutto ciò che è scritto di tutto il mese, no? A fine mese tu lo devi relazionare entro il 5 del mese successivo, devi presentare tutta la relazione e se c'è qualche errore, capito, devi andare a smurciare dove che hai sbagliato. Come quando noi facciamo gli inventari, no? Se tu le mani se ne accorgono, capito? Se tu vuoi fare un errore, se ne accorgono subito, ma perché hanno tutto al computer, le uscite, le entrate, si può, cazzo, se è stato fregato un collo, ma no, per dire mille colli, ecco, questo voglio dire. E se ne accorgono subito se tu fai errori. E vabbè, infatti io non volevo andarmene proprio perché stavo facendo un inventario e so quello che faccio, e magari lo prendo in mano un altro collega e sbaglia, e poi ti passo con lui. Già, belle cose sono a fare. Relazioni mensile a me mi portano via una giornata intera, a volte non ce la faccio a farle in ufficio perché c'è un ufficio lì a Trinità, e allora a volte me le porto anche a casa perché devo strappare tutti i fogli del registro di conduzione, mettere tutti assieme con tutti i fogli allegati, che poi ci sono, c'è il foglio dove di tutti i lavori che sono stati effettuati nel mese, quindi vanno tutti relazionati, chi è venuto, cosa è stato fatto, tipo un rapportino, tutti vanno tutti messi assieme e relazionati. Poi tutto il coso delle analisi giornaliere vanno poi nuovamente ricontrollate e fatte in un unico foglio mensile, tutto quello delle giacenze, quindi cosa hai caricato di ipoclorito, di polielettrolita, di tutti gli agenti che noi trattiamo, tutte le giacenze, tutti i calcoli, quanto hai consumato a grammo per metro cubo giornaliero, quanto ne hai consumato mensile, c'è un mare di cose da fare, un mare. Ma sono tutte sul tuo gruppo, non ci sono altre persone che per dividerli c'è più. No, già, ognuno ha la sua zona, io ho la zona da Vidalba, quindi prendo la macchina a Sorso, sono nel mio impianto, c'è solo deposito lì e officina, quindi prendo ettari e le mie piante sono Vidalba, Badesi, Treta d'Agultu, Padoledda, la Marinedda e Isola Rossa. Questi sono 6 impianti grossi. Poi ho gli impiantini che sono praticamente sollevamenti, anche lì ci sono dei quadri elettrici, quindi lettura contattore, lettura contattorene, lettura di quanto hanno lavorato le pompe, gli agenti non ce n'è, tutte le pompe di sollevamento, e quindi ho lì l'Urazzone Vidalba, che è un impianto vicino a Vidalba. Poi c'ho Azzagulta, Montigioni, Badesi zona industriale, e poi c'ho Trinità Piumazza, che è via Paolo Mazza, e sono 5, e poi c'ho l'Isola Rossa Porto e la Marinedda Porto, e sono altre 7 solitamente. Di questi che ti ho elencato me ne devo occupare solo io. Allucinante. Via. Come fare a far uscire questa lancetta? Già, te lo sto dicendo. Grazie a Dio ancora vado a capo, però la mia domanda è questa: come può fare uno come me, con tutte queste cose da scrivere, da organizzare e soprattutto da seguire, da far andare in un certo modo, perché l'azienda così vuole, giustamente, come fa uno a 65 anni, a 67 anni, a seguire ancora queste cose? Non penso proprio. Già non ce la fanno a cambiare mansione, che già me ne ando prima, non ti preoccupare. non è quello il problema, già sono arrivato ormai, non mi preoccupo. Però dico, in generale, ci sono tante persone che hanno grandi responsabilità, più di me, meno di me, più di te, meno di te, però non si può lavorare con mansioni del genere. Certo, molta gente dice che claro, si è palai picco, sì, ma la mente è peggio del palai picco, perché se vai fuori di testa la buia la vita, comprendi, nudi. Io c'avevo un collega che quanto a me, anzi ne aveva un anno e meno di me, ha buttato la spugna, con lo stesso incarico, già gli è venuto l'Alzheimer, inizia l'Alzheimer, ha buttato la spugna, non capiva più un accidente. La confusione mentale può succedere, sì, perché anche io, per dire, quando facciamo l'inventario, che stiamo ore, per dire, di domenica abbiamo fatto 9 ore di continuo per l'inventario, 9 ore così continue, e praticamente selezionare tutte le cose che praticamente sono esistenti e quelle che hai anche in magazzino, quindi mamma mia, scaffale per scaffale, Santo Antonio mio, un'altra cosa vedami, cucciche, e già, a noi docca, c'è chi ha avuto fortuna che la legge non era cambiata, io sarei stato già 5 anni in pensione, quindi invece è così, la legge ce l'hanno cambiata, allora pazienza, proseguiamo, altri 2 anni ce la abbigliano in gomma, le possiamo mettere di natalino, se ce la faccio, se ce la faccio, però sicuro me ne andrà prima. Sto decidendo cosa fare, sto aspettando un calcolo dall'INPS per quanto riguarda il pagamento di questi grandi contributi. Se il calcolo mi consente di aprire la tasca, me ne ando pure prima, tranquillo, me ne ando pure prima. Va bene, ma come non entra nessuno? Attento Marco, Natalino. Non voglio entrare alle 7:30 quando me la giovano andare. Anzi, sono le 6:10, già 6:12, 6:13. Aspetta che do la pappa a Filippo, che mi sta guardando da lontano, e dice, beh, dimenticato, dici di me. 2 secondi solo, Sì, vabbè, io sono... Gianni, stanco di guardare la televisione, sentire la televisione a tutto volume. Allora me ne vengo qua a ascoltare un po' la radio o a fare due chiacchiere, se no veramente. Assolutamente, no, non facciamo tardi, tranquillo. Poi adesso decidiamo dove andare, così lo sai già, capito? Vediamo un po' se entrano gli altri. Ecco, lui ci prenota anche qua, perché se no magari arriviamo lì e non troviamo bus. No, c'è un problema. Già lo faccio come ho fatto l'altra volta, l'ospedale, avevo chiamato Daniele direttamente, il proprietario, mi aveva lasciato il tavolo. Il lucernaio è il problema, capite? Se andiamo al lucernaio bisogna fare una telefonata. Un ospite lì già venne il Lugui, però bisogna telefonare anche lì, perché di venerdì c'è sempre quello che c'era l'altra volta, con un orecchione che fa spettacolo, e quindi è pieno di gente il venerdì, capito? Vabbè, comunque decidiamo o al lucernaio, perché io avevo voglia anche di Feni, la verità, già proprio una voglia che infatti avevo già detto a mia moglie, ho detto sabato ci prendiamo la Feni. No, se andiamo a mangiare a Feni domani, sabato prenderò solo per lei, capito? Sì, si fa la massaggina di Feni, di calamari, come al solito. Sì, abbiamo fatto l'altra volta, c'è problema, abbiamo già fatto un po' di tutto. Va bene, ok fra. Adesso vediamo, dai, aspettiamo gli altri, ma al 90% avevano voglia tutti di andare a mangiare anche un po' di Feni, quindi andremo sicuramente lì al lucernaio, capito? Perché giù ospiti lì c'è solo pizza e piatti composti, Feni non ce n'è. Dov'è il lucernaio? Dov'è già? Via? Che via è quella? Via di Trento, via Vittamarco. Via Gorizia, dove è di fronte al tabacchino, ce la prende il tabacchino in via Gorizia, dov'è? Proprio di fronte. Via Gorizia, no, non lo prende il locale, il lucernaio, non lo so. C'è la moto? Sì, c'è la moto, rimane in angolo, ho capito, rimane in angolo. È proprio di fronte al tabacchino, non c'era sbagliato. Sì, no, lo troveremo, dai. Ci diamo appuntamento alla fine del, quando sali dal vialotto, alla fine del vialotto devi girare a sinistra, anziché andare dritto per via degli astronauti, basta che giri a sinistra, con la discesa e mi giù mi c'è il tabacchino e la pizzeria. Alla fine del vialotto, quindi salendo, devo svoltare a sinistra. Tu non sali dal vialotto, sali dal vialotto, alla fine del vialotto poi c'è la rotonda, giri a sinistra, via Savoia, quello, capito? Perché il vialotto, cioè, via Savoia dove non è lì, però non è più avanti. È via Gorizia quella lì, dove c'è Lucernaio, via Gorizia. Prolungamento via del Trento. Comunque c'è il tabacchino, di fronte al tabacchino non c'è da sbagliare. Lui dice la seconda rotatura, prendo la ponte, la tira prima, alla seconda. Io avevo sentito un rumore, era Filippo che stava saltando. Sì, fra, è facilissimo, è lì dove c'è il ripetitore, quello grande dell'Ener, cos'è? Quando sali tu dal vialotto, alla fine del vialotto giri a sinistra, non c'è da sbagliare. Fai la discesa, alla fine, diciamo, della discesa c'è il coso, c'è la pizzeria, poi siamo lì noi, c'è un appuntamento, lì alla fine del vialotto non c'è problema. Ma non capisco perché a sinistra, sta a destra. Scusa, fra, a destra. Cavolo, ma c'è a sinistra, come tu sei? C'è le cose ripeto, no, ripeto, Fronizzetta, come ti chiamo? Fronizzetta. Non lo so. Comunque a destra, capito? A destra e poi sì, quando giri praticamente a metà la pizzeria, perché se poi continui scendi per andare giù praticamente in Viale Trento, esci da Via Lomberto, capito? Beh, io ho capito adesso. Mi sono avanzato a sinistra, boh. No, fra, a destra, scusa, cioè è così, a destra. Fine vialotto a destra si è arrivato. Ci 150 metri c'è la pizzeria. Scendendo rimane a sinistra o a destra? A destra c'è il tabacchino, a sinistra c'è la pizzeria, proprio sono uno di fronte all'altro, poi c'è l'insegna illuminata, la vedi. Che si trova, sì. E insomma, tu forse ragazzi lo parcheggio la buba in altro marcia a piedi la macchina. Sono regola smart. Forse ti conviene più con la smart, infatti vengo con la 600. Con l'alfa è più grande, ma non trovo un buco, capito? No, vediamo, ci organizziamo, dai, già siamo lì comunque. Che siamo tutti qua. Vediamo un po', strano, che sono? Sono 6:30, non è ancora entrato Marco, che mamma mia, come sto. Lo voce lo cuscino, senti. Marco si è dormito. Oggi è una dormita lunga. La foto è già di qua, E ce l'hai davanti, è lì, attaccata a te. Dov'è Marco? Dove sei Marco tu? Franco. Ma Franco, scusa. E qui siamo in via Sicilia, vicino al Palazzo Giallo. Segnale 9:30 sto andando col grande col 440, ma sono a 10-15 watt, 15 watt e 20-25 modulati, più o meno come il Galaxy, eh? Sto usando la stessa potenza del Galaxy. No, invece Franco viene avanti fra se il segnale è cambiato. Adesso sto usando però una cinquantina, più di 9, sì, ci picchiavo. È migliorato, Franco, però c'è il problema che lo Smith suo è molto avaro, capi? Quando sto arrivando io 7-8. Tu liscio sei Santiago 8. Già a te quanto ti arriva? Aspetta che mi metto lo spiccito, se no lo segnali. Il minimo già negli arrivi così quanto a me arrivi attaccato. Siete molto vicini voi. Non sei mai riuscito a mettere a posto quello smittery. Prova, Franco, è 9:30 come te, Claudio. Ma te lo botto, tra te davanti al mio. Sì. Che te la stai usando, Franco? Sono quei radiali, l'antenna, e vistose sono Franco, ma vuole tutto riscatto. la moglie ce l'aveva, c'è ancora la Mantova ai punti, quindi però Franco non lo vuole dire, dottore scherzo, figurati, si arrivende che altro giocare vendi io, siete attaccati, poi con l'antenna ti ripeto, per me funziona bene, perché sei Santiago Nova, comunque subito l'antenna, io sono distante da te, non è che sono vicino. Infatti sono io che vedo a te, capito? Quello è il problema. Infatti qua il tuo segnale è leggermente più alto rispetto al mio. E più o meno siamo lì, però sono io che vedo a te, tu a me non mi vedi, mentre già ne siete a vista ottica, capito? Vi volete, siete tutti e due allo stesso livello, via Balleda con via le Sicilia e più o meno siamo lì, non è che cambia molto, comunque vi vedete sicuramente. Vabbè. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Certo che c'è qualcuno che vuole entrare, stavo aspettando appunto il momento adatto. Ciao Claudio, ciao Franco e ciao Gianni. Dipende qua, fai il capobanda, vai, fai girare. Allora, Marco Giù, buonasera, ben ascoltato. Un po' assente, sì, questi giorni, e vabbè che c'è molto sport in televisione, quindi stavi seguendo sicuramente. Stiamo aspettando che entrano gli altri. Nel frattempo ci sono io, c'è Gianni e c'è Franco. Vai già. Sì, ciao Giulio. Ho osservatore da farti, la radio non deve regolarti, un po' sassa. Allora devo allontanare così ancora di più. Così va bene, ti piace così. Se no dimmelo di mettermi un po' di zuccherino. Sì, va un po' meglio, ma non è chiaro chiaro. Allora devo agire qua, scusa un attimo. Hai ragione, hai ragione. Ecco, adesso dovrebbe andare bene, vai. Adesso sei un bisciù. E già lo credo, giallo. Non è chiaro, chiaro. Non te ne d'accordo con. Sì, io stavo per dire che stava strappando, ma lui, ma la linea di spostamenti ha toccato Michi Ghesero, lo lascia sempre più o meno come questo, non più di uno, il 44, se non inizia a volare. Avanti, fra, lo senti a Giulio, sì? Sì, non l'ho capito, però l'ascolto abbastanza bene. Giulio, benvenuti. Sì, ti ascolto bene, fra. Radio è buona, ultimo, segnale non è tanto perché l'antenna è quella che è, però la radio è buonissima, vai fra. Vai, sto con te, dunque me ne ha ascoltato anche la pandemia. Volevo sapere, Gianni, tu che antenna stai usando? La mia è un po' incrociata. Allora, io ho amato un A5, poi praticamente si sono rotti i radiali, li ho rifatti io, li ho rifatti a misura, ho messo dei radiali pieni. Nessuno mi è caduto, quindi è una Mantova 4. Che metto su alluminio? Sì, sì, alluminio. No, i radiali che metto li metti in alluminio sempre? Sì, alluminio pieno. Una trappina da 6, da una roba genere. Sì, perché le cornacchie troncavano gli attributi. Allora gli ho messo quelli pieni, gli ho messo una lenza per tenerli, di quelle lenze per grumi, di quelle grosse, per tenere il radiale, e intanto ce l'ha fatta lo stesso, la cosa che mi ha aspettato lo stesso, lo sa. Ma non danno anche le antenne del TV, non capire di nessuno, qua davanti a me è pieno di cornacchie che fanno un danno tremendo. E la te classe sono cornacchie. Sì, ma no, stanno seduta sulla direttiva, ma la direttiva c'ho io molto grossa. E poi a volte anche sul radiale della Mantova, però sono in fibra, io ho la Mantova 1, capito? Non è la Mantova 4, tu già adesso c'hai la Mantova 1, perché c'è 4 radiali, la Mantova 5 ne ha 5. Va bene, comunque, ok. Giulio, ti volevo dire a proposito di antenne, ma l'altro giorno mi sono trovato lì nella zona tua, ma quell'antenna che hai tu, quella è una Game Master. La base sì, e poi ci ho messo il filo, cioè avevo la base, l'ho procurata e ci ho messo il filo, sì. Ho visto, perché è abbastanza alta, caspita, infatti ho detto questo è il basamento di una Game Master, l'ho visto, ero lì ai punti in quella zona, stavo rientrando da Tronco Reale, sono passato proprio lì dove c'è la scisa. Caspita, è una bella antenna quella, L'hai modificata praticamente, l'hai messo il filo centrale? Tutto quanto, cioè diciamo che avevo anche il filo, la bobina in pratica, e io ci ho aggiunto tutto il resto. Ecco, quindi è stata fatta a dipolo verticale, dai. Va bene. Avanti già. Scusa, però è molto bassa lì. Il pavimento sfoglia un metro e venti, non di più. Se la metto dove c'era la mantovatubo prima, allora esco veramente bene. Perché già esco bene così, mi sentono anche fuori in continente, anche all'estero, così com'è. Figurati se poi la metto a 5-6 metri di altezza dove c'era prima la mantovatubo. Avrei un guadagno straordinario, ma non me ne frega niente, al momento è lì e ci sta bene. Ah, non hai più la mantovatubo, Giulio, come mai? Sì che ce l'ho, è sdraiata sul fagiolo, all'ultimo piano, in terrazza. Sdraiata sul fagiolo, l'ho messa lì, l'ho smontata e l'ho messa lì. No, perché appunto ho voluto provare questa che ti sto dicendo, e dunque... siccome l'ho messa lì in terrazzo per fare delle prove e lì è rimasta, ma c'è già un paio di mesi anche oltre. Ah ecco, l'hai messa in terrazzo quella che è rimasta. Chiamala così. Sì, è in terrazzo, però due immagini di pavimento di casa, no? Ecco, tu adesso prendi il metro e misura un metro e venti massimo, non di più. Dal pavimento, che poi tra l'altro è chiusa tra le quattro mura del terrazzo anche, no? Tutto sommato. Ma dovrei metterla sul terrazzo, sul tetto pure? L'idea è quella di metterla al suo posto, dove effettivamente era nata la mantovatubo, dove c'era sempre la mantovatubo. Siccome la mantovatubo l'avevo tolta per ripristinarla, no? E ricordi che ti avevo detto che non era così circuitata e a me domandava così. Allora un giorno l'ho tirata giù e nel frattempo avevo questa bobina, ho fatto aspetta, adesso voglio fare un esperimento. L'esperimento è riuscitissimo, tra l'altro è attaccata alla mia antenna TV a distanza di 2 metri nemmeno, tutto è tranquillo, capito? Per cui il discorso è andato bene. Si applica adesso sempre il suo intento. Cioè poi non va bene pazienza. Ecco, tu io ho fatto con l'antenna della macchina, quando ho fatto quella cotta che rendeva per un'antenna grande. Oh yeah. I radiali, tutte quelle cose sono efficienti e si può piazzare. Stavo dicendo, Giulio, però non l'hai tagliata, la misura effettiva è quella della Game Master. È qua, basta guardare i computer, ci sono le misure effettive, ci sono, per cui io ho fatto le stesse misure, il problema non ce ne sono, capito? Sì, ho capito, però lo stilo che tu avevi è per intero della Game Master, perché è molto lunga, io l'ho vista, nonostante sia bassa, è abbastanza lunga l'antenna. Saranno circa 7 metri, 6,50, non lo so di preciso. Io ho usato del tubo da elettricista, quello per impianti rigidi, no? L'ho usata così, capito? Per cui qualche pezzo di carne alla pesca ci avevo messo anche per riportare, eccetera, eccetera. Tutto lì. Ora vedo che va bene. Cosa vuoi che ti dica? Va bene. No, è molto alta, quella è la misura effettiva della Game Master, sicuramente. Poi il lavoro che tu hai fatto, vabbè, aggiuntivo, se l'hai rinforzata va benissimo, però è lunga per l'antenna, è più di 7 metri. E più di 7 metri si vede che è un bel lunga. Capito, Fra? No, non le dare nessuno impegno, non le dare niente. Tu se la devi montare, quella, tutto lo stiro della mantova, lo pulisci con la lana d'acciaio, non con la carta vetrata. partita, una passata di straccio, e poi guardi se il piantone è buono, se i radiali, l'innesto dei radiali si può montare, perché no? Qualcosa si può fare. Vai, Fra. Sicuramente mi stanno rovinando un po' quei gommini, i radiali, quelli che tappano la, si spaccano la vite di ferro, dove si incassa il radiale, la presenza dove c'è il nottone, gli attacchi nottone, sono un po' ridati quelli lì, è tutto da... Ma anche se c'è un sito grosso, come fa quando l'acciaio ne esce? Certo che ne esce, l'acciaio pulisce, però non rovina, capito? Mentre la tela va a togliere la cosa dell'alluminio, invece l'acciaio te la lucida, però non toglie le impurità, quelle cose lì e basta. Capito, Fra? Però se non la devi piazzare, è inutile che stai a annettarla, da sarei anche indietro. Vabbè, ma un peccato, vedere la guida, ma già l'ho vista, non so se c'è il proprio sentito, è da provare, esatto. Qualche giorno, c'è un po' di tempo, la riesumo, e do una sistemata, vedere almeno tenere in buone condizioni, esatto. Beh, certo, una cosa che magari hai già pronta, va bene, avanti già, Gianni, ma Gianni di Caramaiadomi, e prendi tu Giulio. Ok, che tra l'altro la mantova tuba che ho, tubo che ho è nuova, tu lo sai, come ce l'ha voluto, fa un po' il conto, un anno e mezzo, non di più, è nuova, è lucida, senza bisogno di pulirla, è lucida. Per cui l'avevo ripristinato quel famoso discorso del cortocircuitata, doveva essere così, andava bene anche senza essere cortocircuitata, andava benissimo, andava bene, benissimo, però siccome io sono un po' pignolo in queste cose, allora l'ho smontata per quello, perché pensavo sempre, ma se è stata costruita cortocircuitata, per quale motivo non deve essere sempre così? E allora l'ho rifatto quel discorso, niente di particolare, non... c'era la bobina dentro all'interno, dentro la base c'è una bobina in rame che in realtà è un'impedenza in pratica, che non fa altro che fare parte della lunghezza fisica dello stilo centrale, e questa bobina, siccome è in rame da avvolgimento moturi praticamente, ed è smaltato, e c'è un incasso, tu immagini quanto è grosso il filo di rame, c'è un incasso e c'era il taglio dentro, che era ribattuto con un colpo di cacciavite a taglio, in modo che quando pesta si allarga l'alluminio, quello che fa parte della massa, cioè quello che si attacca al tubo poi, e allora non era più in contatto cortocircuitato, però funzionava bene perché l'antenna era perfetta ugualmente, e io l'ho fatto col gioco e adesso è perfetta, capito? Ma niente di particolare. Sì, Giulio, insisto sulla modifica che hai fatto, però ho visto che, siccome la conosco molto bene con l'antenna, quello è lo stile della Game Master, è molto lunga come antenna, quindi si vede insomma che è lunga come antenna, a prescindere che poi sia molto bassa come piantone, come innesto, ma l'antenna è molto lunga. Va bene, no, il funzionamento è ottimo, sei 9+20 qua e vai alla grande, non problem, è sempre il tuo segnale, non ha cambiato niente, da davanti va quella, non noto nessuna differenza, perlomeno col K, poi magari col Galaxy si nota qualcosa in meno, qualcosa in più, non lo so. Avanti Gianni, ci sei, se no riprendi tu, Fra. Gianni si è dormito, riprendi, Fra. Beh, la cosa è che ha distrutto l'antenna. Sì, ma se è nata in corso deve rimanere in corso, credo. È tipo quella delle macchine. E poi cosa serve il corso? Per evitare scariche elettrostatiche, così è classico. Giulio, rispondi tu che stavi parlando tu. Sì, per quello serve. Serve per quello appunto, non si sa mai, sa. Magari non è che sarà così tanto efficiente, cioè il senso è stata costruita così e dovrebbe funzionare così, anche perché su in punta c'è nella mantova tubo c'è un funghetto che è di plastica, quello serve appunto per non attaccare direttamente, o meglio per non essere attaccata direttamente dalla cosa, dall'elettricità, diciamo, no? O dei temporali, eccetera. Per cui però oltre a quello c'è questa questo sistema di corto circuitato, ma sono tutte le antenne oggi corto circuitate, sono tutte le antenne. Fai una cosa, apri il computer e guarda, antenna Game Master, ti prendi il filo e ce la fai, tranquillo, ti posso garantire che funziona, tu rispetta quelle misure e sei a dama, e sei veramente tranquillo, guarda, non hai problemi di volatili che si posano sui radiali, non hai problemi di vento durante il tempo brutto, quando c'è forte vento che suonano, nulla, è perfetta. Guarda, ti avevo capito qua? Sì, la conosco come antenna, no, ma io l'ho amata, l'ho da una vita, questa è la terza che cambio, ma a distanza di tanti anni, adesso c'ho 91, non la cambio con nessuno, non è quella che mazza, lega un nuda, a differenza della Mantova Turbo, che io a sua volta avevo detto che è un'antenna abbastanza performante, ma molto molto delicata. Infatti l'avevo tolta anche io e avevo messo la Mantova 5, e poi con l'andare degli anni la Mantova 5, perché l'avevo smontata da qua, l'avevo messa in via Pascoli, poi l'avevo rimessa qua eccetera, era un po' andata male, e allora ho comprato nuovo la Mantova 1, cioè la Mantova 1 già da qua da un po' di anni, e va bene, c'è anche un piantone di scorta che me lo tengo di scorta perché ne avevo due, uno l'avevo dato. Adesso ne ho un altro che mi ha dato Gianfranco, me lo tengo in scorta perché sono quelli che bisogna tenere sempre, capito, a disposizione, Giulio, perché magari si rovina, si stacca la molla, si stacca quello, si stacca quella, invece non faccio altro che smontare l'antenna, togliere il piantone centrale che ho facette in acciaio inossidabile, tutto vulcanizzato, togli quella, innesti l'antenna nuovamente a posto. No, una bella antenna quella, già conosco perfettamente, Giulio, conosco, molto funzionale, molto, va bene, si può anche costruire, per carità, però no, non nel mio caso, mi fa fatti dare le misure, o segui le direttive di Giulio, vedi quella, questo di Dubbo, e ti fai l'antenna come telecristiano, non la guppa regina in manco. E la puoi montare anche qui dove ce l'ho io, guardo il fagiolo, davanti alla finestra. Anche perché è leggera, non è pesante, è anche leggera, e c'è una canna da pesca, tu immagini una canna da pesca, ti compri una canna da pesca lunga 7 metri che costa 15 euro, mi sembra, lì da a Santa Maria, come si chiama, con il negozio sportivo di Santa Maria, dove c'è Carrefour, sì, lì non c'è l'altro negozio dove vendono biciclette, maledizioni sportive eccetera, una canna da pesca 7 metri lunga, e te la costruisci lì, e dentro ci infili questo filo, prima naturalmente ci va una bobina con 16 volte a volta su un tubo di 60 mm e poi ci sono le misure, basta aprire il computer, ti dà tutte le misure, tu fai quello e stai tranquillo che al massimo deve fare una ritoccatina nella lunghezza del filo finale, perché nel filo finale è un filo normalissimo elettrico da 3 mm di 2,5 3 di millimetri quadrati di spessore, e il resto è cavo coassiale, va bene anche l'H155 come cavo coassiale fino a metà, l'altra metà invece è un filo normalissimo, poi ci sono tutte le misure, non puoi sbagliare, guarda, sono tutte le misure, la fai uguale e sei a posto. Ma se così di lunga non va bene, metterla qua davanti alla finestra non va bene, ma la mettere sul tetto. Intorno a 7 metri, è ovvio, la lunghezza fisica dell'antenna è quella, per quella frequenza vuole così. Ma voglio dire, come peso non ne ha, è leggerissima. Infatti io l'avevo anche consigliata la volta scorsa, quando era il momento che doveva piazzarsi alla Natalino, l'avevo consigliata a lui anche, fai quella. E poi invece lui ha optato per un'altra antenna e invece mi sa che con quei radiali ha proprio i problemi che ha. Questa ti posso garantire, no, nessun problema, basta, veramente. Ok, mi sa che ha buttato Marco. Buonasera a tutti. Sì, ho detto Decathlon che Giulio non veniva, dai. Sto facendo una cosetta, dopo entro, ok? Sto ne ascolto adesso. Rilancio Claudio. Claudio non preso. Decathlon, ho capito. Ciao Marco, buonasera. Avanti Giulio, perché quella non si può leggermente più corta, qualcosa insomma che riesca a, ad arrivare appunto alle esigenze di Franco. Sì, sì che si può fare, anziché però anziché essere tre quarti d'onda, cioè non tre quarti d'onda, cinque ottavi diventa mezz'onda, si può fare, ma allora è intorno ai 5 metri qualcosa, di preciso non saprei dirtelo, però più o meno è così. Ma ci sono le misure anche per quello, in al PC, tu la puoi cercare e ci sono anche quelle misure. Oppure fra, se non te la vuoi, la puoi ordinare, apri il PC e c'è tutto lì, se te la fai arrivare così non te la devi costruire, hai risolto il problema ancora prima, capito Franco? A me già mi stuzzicano queste cose, provare così, fare la mia nuova esperienza, però le dimensioni sono quelle, deve accorciare il radiale e allungare la carica, dai. Praticamente deve compensare con la carica, così è classico. Non ho capito, fra. Accorciando l'antenna dovete allungare la carica, la bobina. Beh, come regola dovrebbe essere così, però poi te l'abbia spiegato Giulio, capito? Anziché essere una 5 ottavi, diventa una zomba. Vabbè, ma è sempre per lui il problema, no, Giulio, non è i 5 ottavi, mezz'onda, un quarto d'onda, eccetera, è la misura dell'antenna, perché io ho capito che la vuole mettere nel poggiolo dove c'è il braccio, quel coso che stendiamo, capito? Si può anche fare però. Allora deve cercare di farsela da un quarto d'onda, che diventa ancora più corta, però si sa, più corto è lo stilo e meno irradiazione hai o fra, per cui se vuoi una certa resa, l'antenna l'ideale è la 5 ottavi per questa frequenza, anzi addirittura sarebbe meglio la 3 quarti d'onda, per cui ma allora diventerebbe ancora molto più alta, io penso intorno ai 750 8 metri, non lo so di preciso, comunque siamo lì. La 5 ottavi è l'ideale per questa frequenza, più corto è lo stilo centrale, tu mi dirai ma con la bobina ricompensa e arriviamo sempre alla lunghezza fisica della frequenza, certo questo sì, però la resa è molto inferiore, o Franco. Sì, no, però già è come usare un'antenna di macchina, sì c'è la bobina, però non arriverà mai a equipararsi a un'antenna di casa, dai. Forse è rientrato Gianni. Sono rientrato, erano venuti, non ho potuto avvisarvi perché sono dovuto alzare il campanello e sono dovuto andare a aprire. Ok, siamo qua, siamo tutti qua, ciao Marco Lattapignara, se sei entrato, penso di sì perché mi sembrate sentire la voce, e ciao se ci sono stati non rientrati, dai. Ciao già, un attimo sto nastrando una cosa, poi già entro, dai. Ehi, nastra, sempre belli pacchi e pacchetti. Sì, io già, i regali prima di Natale. Ok, ciao Marco. Io in certo senso sono stato agevolato perché avevo già la bobina, ma la bobina, ripeto, è un cavo quasiale, normalissimo, che può essere anche del RG58, sia ben chiaro. Ma per essere un cavo leggermente più serio, basta utilizzare l'H155 e lo avvolgi attorno ad un tubo di plastica, di quei tubi che servono per lo scarico delle case, dei lavandini, però grosso, di diametro 60 mm, 65 mm più o meno, dai. E stiamo lì, metti 16 giri di cavo attorno a quello, ci attacchi il PL, quello da pannello, no? Dove ci avvicini direttamente il PL normale del filo di discesa, e poi però questo cavo coassiale arriva grosso modo a metà antenna, poi il resto invece è un filo normalissimo, un solo filo, uno di 2,5-3 mm di millimetri quadrati praticamente, e fino ad arrivare a quell'altezza, naturalmente c'è un condensatore, c'è al centro, a metà antenna, c'è uno spezzone uno spettone di capo sempre coassiale, quello vorrebbe un po' più grosso di cosa, anziché mettere l'HV155 si può mettere un pezzo di 213, però è un pezzo da 60-70 cm più o meno con la lunghezza. Poi su in alto ce ne va un pezzo da 9 cm che è praticamente un condensatore, fa da condensatore. Comunque se tu guardi al computer c'è spiegato tutto, perfino per segno, misure e tutto, Franco. Beh, ok, dai, già guarderò per un po' di tempo. Adesso vi saluto tutti, ciao Giulio, comunque ti ringrazio ancora. Ciao Marco, ben entrato, Claudio e Gianni. Mari, se posso, ti ascolto con la macchina, Mari mi facciamo la chiamata, dai, ok, riprendi. No, scusa un attimo, ti do l'indicazione giusta. Tu a computer scrivi antenna CB Game Master, autocostruzione, frase del genere, no? E vedrai che ti si apre quella pagina lì dove ci sono tutte le misure, eccetera. Ok, fra, ci sentiamo allora, dai, ciao, grazie per la chiacchieratina, alle prossime, avanti, fra. Grazie a voi, dai, è sempre un piacere parlare di queste cose, riprendi qua. Ciao. Scusa mamma mia, c'è volato l'aria accesa, sto facendo le foto al Galaxy. Ciao fra, ci sentiamo domani? Ti fai sentire domani? Ho già confermato, ci vediamo lì. Noi per le 8:30 siamo lì, insomma, dai. Ok, dai, intanto il mio numero ce l'hai, magari ti mandi il messaggio con le coordinate. Ok, no, lucernaio, te lo sto già dicendo, lucernaio alle 8:30 noi siamo lì, va bene? Ok, 8:30. Giulio abbiamo invitato? Amato Giulio? Sì, Amato Giulio ci vuole poco a biglio, è un problema questo. Ma lui il venerdì è sempre impegnato, poi domani c'è l'Italia, vero Giulio? Ci viene a mangiare la fine? L'ho mangiata anche oggi, guarda, da ieri, mangiata ieri a casa, ne sono passate delle fette e stamattina ho fatto colazione, figurati un poco, no, grazie, mi ringrazio, no, assolutamente. Stavo dicendo, e poi al limite se proprio vuoi, io ho tutte le misure, ce le ho segnate, se per caso non riesci a raccapezzarti bene al computer, io ho tutte le misure segnate, ti mando via WhatsApp, ti posso mandare anche un video, per cui non è un problema. Vabbè, al mio modo te le posso spiegare anche o tramite telefono oppure frequenza, ho tutte le misure che a memoria adesso non me le ricordo, però ce l'ho, me l'ho stampata in un pezzo di carta e ho tutte le misure, così non fai fatica nemmeno a cercare al computer, Franco. Ok, dai. Ne parliamo con calma magari, che adesso ho un po' di premura. Ok, grazie ancora. Di niente, figurati, un piacere, ciao, alle prossime. Avanti Gianni. Ehi, ciao Franco, dai, alle prossimine, buona serata. Anzi, a domani. Kappa. Chi manca? Mantalino? Mi siete mantenendo anche su WhatsApp. Allora, Franco, per capirci, è il marito di Ombra, Anna Ombra, ok? Gianni Doppio Rum e Marco Condor, Anna Ombra. Ah, ma io non sapevo chi era Anna Ombra, ma il vecchio CB che è rientrato dopo tanto. Franco non ha mai mollato, Anna trasmetteva dagli punti. Una carissima amica sia lei che Franco, perché ci conosciamo, e Anna era un ex collega di mia moglie quando erano lavorassieri. E con Franco molte volte siamo andati a mangiare la pizza, io mia moglie e lui la moglie, capito? E quindi velocemente l'ho detto anche a lui. E comunque magari non vi conoscete, ma vi conoscerete poi quando siamo tutti assieme, ma è stata una vita che Franco c'ha al baracchino. Una vita. Ottimo. Eia, fra poco scendo in macchina, devo avvitare un copri PL. Ce l'avevo io, perso. Sono andato in campagna, perso. Porca miseria, una cosa che non si crede. E allora l'ho rifatto, dai. Poi per quella cosa che mi hai mandato ieri, Claudio, il virus che è formata, ho controllato sul sito delle bufale, è una bufala, dai, è una specie catena di Sant'Antonio, lo mandi a tutti e tutti ci credono, o meglio i gonzi ci credono, io me ne sono accorto subito, ho letto sul sito delle bufale ed è un falso. No, io non ho mandato a nessuno, ho chiamato a voi così e basta. Vale, sì, chiamami se mi vuoi chiamare, vale, ok, non c'è problema, il telefono è qua vicino a me. Avanti, Giulio, riprendi, fai girare. Ok, sì, è così, va bene, dai, tu pensa, vabbè, adesso, però tu è che lo voglio raccontare, perché me l'avevano, quando c'erano i mulattoni qua lavorando, mi avevano schiacciato un'antenna, ma diciamo che ce l'ho messa da parte, no? La posso ripristinare, ma comunque no, non è caso di parlarne del mezzo. Sì, è così. Allora, cosa dovete fare? Dovete fare la mangiata di Fainie? Quando? Domani? Sì, siamo già andati un'altra volta. Siamo 7-8, andiamo a farci due chiacchiere, staccare un po', visto che è il fine settimana, andrò a mangiarci la Fainé assieme. Abbiamo già fatto, viene anche Valerio, Valghera, se lo chiama Stefano, deve essere disponibile. E andiamo, vai, a staccare un po', perché sabato al lavoro, già in ferie, Marco Condor in pensione, capito? Valerio lo stesso in ferie, e vabbè, ne approfittiamo. Ne approfittiamo, dai, ok. Quindi Marco confermato, lucernaio 8:30, 8:30 lì, dai, poi tempo di organizzarci eccetera, io lo dico per l'ora, almeno un quarto. Anche per le opere, forse non c'è problema, però le 8:30 lì, dai, così si cerca a posteggio, due chiacchiere e poi entriamo, va bene? Quindi domani io telefono al titolare, le dico per le 9, cioè per le 9, però noi alle 8:30 appuntamento lì tutti, ok? Aspetta, già domani è. Io, come che fosse martedì, mercoledì, invece è già giovedì. E domani troverò una scusa, cioè ho la febbre, non mi sento bene. Vedrai, mi. Ma io vengo e ti leggo per i piedi e ti trascino sino a lucernaio. Aspetta già domani. Sì, io penso un po' alla condizione del tempo, sai, non stavo badando al giorno della settimana. Per esempio, oggi eravamo a Prato da mia zia, per l'ennesima volta. E noi alla fine stiamo andando, perché mamma si stanca in fretta di stare lì a parlare, stare lì, insomma, ha bisogno di sdraiarsi a letto, è utile. E ti dirò che anch'io però mi burio troppo. Siamo i soliti tre disperati, dai. Va bene, domani. Io ovviamente per distinguermi dal volgo mi mangerò la pizza. Dai, volgare sarai tu e in più sei anche qua, non te lo voglio dire. Cuocomane. Cuocomane sarai tu. No, dicevo, sono anche cuocomane. E quello lo sapevo. Gianni, ci sei ancora? Certo che ci sono, ciao Natalia. Ciao Gianni, buonasera a tutti là. Cosa vuoi? Mamma sta bene. Vuole venire in pizzeria anche il cane, mi? No, sta abbaiando così perché sta arrivando a concerto con le pizze. Ehi, KK. Ah, per cena, è giusto che sono... c'ho gli orari tutti sballati. Però vedi, oggi abbiamo mangiato alle 3:15, dai, abbiamo mangiato. Per me è presto, mi. È una specie di shock. Cosa? Che oggi in campagna, invitati, abbiamo mangiato alle 3. E per me è uno shock mangiare così presto. Alle 3 mangiato. Madonna santa, allora domani piove. Infatti si stanno volando, via. Perché io ho mangiato alle 3:15, capito, sono arrivato a lavorare 2:30, caspita, allora domani succede qualcosa, Giulio, metti nota, prendi nota. Bisogna proprio prendere nota, e vabbè, adesso. adesso ti scrivo nel libro nero, oh Marco, così almeno poi un domani te lo ricordo. Eia, ascolta Claudio, ma Pomponio l'avete avvertito? Cioè vogliamo estendere il coso, perché lui non mi ricordo cosa mi ha detto. Vabbè, lo chiamo dal fisso. Poi sai cos'è, Claudio, viene bene portarlo che magari scende da su. Che già fa, lo devo chiamare? Non c'è problema, non me lo devo portare a spalle io, Antonello. Mi pare che avesse detto qualcosa che non mi ricordo inerente al fratello che ci aveva nell'orario. Mi sembra, non voglio dire una fesseria, ma c'era qualcosa sull'orario che non combaciava. Capito? Perché lui a quell'ora deve scendere giù. Non mi ricordo, boh. Ma tanto qua viene Valerio, come abbiamo fatto l'altra volta. Valerio viene a casa e io parto da casa. Gianni le viene in salita ed è arrivato, tu sei attaccato a casa tua. Bisogna organizzare per Natalino. Qualcuno deve passare a prendere a Natalino, perché se sposta la macchina anche lui è un casino, boh. Natalia, ci sei? Ehi, e tu c'è il bacco, la me mi viene male a guidare. Allora bisogna organizzare qualcosa, adesso vediamo se è disponibile Gianni lì che è vicino a te, oppure se facciamo qualcosa. Beh, comunque già ci organizziamo, te non ti preoccupare. Ma passo io, dai. Già Gianni è disponibile, quindi se passa Gianni si è a posto, se no io aspetto Valerio e poi scendo e ti prendo, non c'è problema. Però Gianni è lì, viene a prendere a te, gira la macchina e salite dal vialotto, capito? Che gamba c'è Natalì che ti fa male? A destra. Allora come due macchine di Maria, pure io voglio un riso. Allora io là devo guidare con la punta delle dita perché sennò non riesco a guidare. Comunque hai ragione Claudio, purtroppo Antonello a quell'ora deve dare da mangiare al fratello, a quell'ora lì. Certo se qualcuno avesse preso il suo posto, tipo la sorella, ma non lo so se coincide la cosa, è un casino, purtroppo finché non arriva una del comune a battere al fratello non si può muovere da lì. Oi, ciao Valerio. Ciao Valerio. Ehi, Togito, buonasera. Domani sera scendi a casa, ok? Verso le 8 a casa, 8 e un quarto, 8 e 10, capito? Lasciamo la macchina lì e andiamo con la tua, andiamo con la mia, tanto siamo qua a Sassari. Ok, vale. Esatto, sì, facciamo come l'altra volta, capito? Andiamo con la mia che non c'è niente in macchina. Quindi alle 8 a casa, mettiamo la macchina dentro, a cancello chiuso, così lasci tutto attaccato, come abbiamo fatto l'altra volta, e andiamo con la mia. Va bene, alle 8 a casa, vale? Ok? Ok, quindi siamo tutti avvisati. Franco alle 8 e mezza è sul posto di combattimento. Ok, allora cambio per Giulio e fai girare, vai Giulio. Ok, ciao Valerio, ben ascoltato. Vabbè, allora divertitevi domani, cosa vuoi che mi dici? Io non posso che augurarvi buon divertimento e buona compagnia per tutti voi. Gianni, ci sei, vai. Ci sono. Allora Valerio, preparati un posticino nella panzuta. Venite già ubriachi, Casomai se ne va ubriaco. Dai, mettiamo sopra il locale. Quelle prospettive ci avendo fatto. Vabbè, Valerio, comunque un giorno mi faccio sentire anche quando sei a casa, là, quando sei ad Alghero. Per me il discorso è semplice, basta che io porti l'antenna al suo posto, perché adesso è un posto provvisorio, per farmi sentire meglio, non con un grandissimo segnale, però sufficientemente bello e chiaro. Avanti Valerio. No, Valerio, sono stanco, pensa che l'ho mangiata anche ieri notte e stamattina quella cavalcata me l'ho mangiata a colazione, fredda come era, ma vabbè, mi piace lo stesso, per cui è altrettanto la pizza qui, è di moda qua tutte le settimane, per cui non va bene per me, capito Valerio? Sì, no, ti volevo dire anche che io uso appena 10 watt, non di più, e poi volendo posso farmi sentire bene anche adesso, in questo momento mi stai sentendo bene. In altri momenti un pochino più critici, basta che dia una terzata, perché questo se ne spara 100, se ne spara e modulati anche 150, e Claudio lo sa bene. Ma no, ma l'ultimo ragionamento che ti ho fatto intendevo per quando sia ad Alghero, capito? Per cui, volendo, è perché ci vuole la mia volontà per farmi sentire bene ad Alghero, perché purtroppo per quella zona io sono in una posizione critica, io sono ai piedi di Monte Oro, per cui non ho molta distanza per poter scavalcare in maniera decente la montagna, capisci? Il problema è quello, se fosse stato un pochino più lontano, magari, poi come si dice, come ci sarebbe più rincorsa. Tu immaginati uno che è passato con l'asta, no? Se salta sotto l'asta, salta a 1,20 m, se salta a 3 metri dall'asta, salta a 2,20 m. Mi sono spiegato, vale. Scusate gli amici. Natalino, ti ha chiamato Valerio. Non lo sento. Nada Valerio, nada. Dove sei Valerio, pronto? Io vabbè, Santiago 9 sei qua, non c'è problema, già ti sento. Ehi Valerio, non ci sentiamo dopo, ma sicuramente sì, perché ora si permette con la porta del cane. E prima delle 8 sono veramente in radio. Se mai ti faccio chiamata qua quando stai andando al Ghero, come l'altro giorno, ti faccio compagnia. Tu in ogni caso confermato alle 8 a casa, ok? Così ci organizziamo, mettiamo la chiamata, facciamo tutto, alle 8 e mezza siamo sul posto, gli altri lo sanno già, alle 8 e mezza lì, io prenoto per le 9, ok? Così abbiamo anche mezz'ora per cercare il posteggio, non si sa mai. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Musan 30, avanti Gianni. Aspettiamo l'accordo. Io alle 8 mi faccio trovare bene là. Aspettate un quarto, va bene. Ci hanno 3 mesi, alle 4 ore siamo sopra, Già, prenditi il sicuro per il posteggio, perché se poi non c'è posteggio stai 10-15 minuti come ho fatto io l'altra volta con Elio prendendo il posteggio. Alla fine abbiamo bocca, mi devo chiamare anche Elio. Alla fine abbiamo messo sul marciapiede. Solo qua per facciamo alle 8 allora. Non c'è problema. Facciamo un giro di fine e un giro di pizza. Crepiamo. Vabbè, ti muci. È un po'. Andare lì, ma stancato, dai, in campagna. Bene, molto bene. E cosa hai fatto in campagna? Ti lasci? No, magari, quella teme per i gatti. Attento che ci sono i gatti. Ce lo dico, già mi ne affutti a me i gatti. I gatti di fuori, non sono nemmeno sui gatti, sono gatti del vicinato. Ma io chiaro che non sparo se c'è il gatto, no? È molto paurosa mia zia, anzi paura un po' di tutto, dai, dei fulmini, dei ladri, eccetera. Ok, riprendi la salita. Come in campagna sono cose che possono succedere, c'è i ladri, i fulmini. I fulmini vengono schiacciati dagli alberi e i ladri dalle case di campagna, perché a volte sono isolati. Mi Marco, lascia stare i fulmini, parla di altre cose. No. No, è lì che solo ha quelle paure, c'ha mille paure, capito? Tipico degli anziani. Bene. Bene, poco fa, dalla campagna mi pronto a chiamare là, dove mi piace molto a Claudio, perché non lo può vedere l'UBMR. E c'era in quel momento Pomponio sulla strada di Alghero, era con qualcuno in macchina, l'ho sentito per un passaggio, poi è sparito. Poi mi ha telefonato e ha detto, mi se vuoi venire suonando da Nicco, cazzo, ma sempre ai circoli va. E posso capire una volta, ma non puoi vivere di circoli, di bar. Piero Pomponio, c'è l'ascolto? È già l'ascolto comunque, lo so io. Vabbè, avevo risposto se c'era. Ma fratello di Leoncino? Eia, cioè ogni volta mi invita, vieni, sono di... A me non piace andare nelle bestole, mi chiaramente. Vabbè, c'è chi è abituato e c'è chi no, io in questi posti non ci vado mai. Proprio per me è come se non esistesse. Come lo vuoi chiamare? Il Vindiolo? Che altri nomi ha? Aveva altri nomi, Luzzilleri. Circo? Luzzilleri. Allora, in sassarese penso proprio che si dica Zilleri, vero Giulio? O dici Circo dei Recreativi? No, non lo so, non lo so perché io non li ho mai frequentati questi posti, non sono praticamente attenio, per cui non te lo so dire. So che si dice in sassarese Vindiolo e basta, o qua. No, ma c'è il dubbio che tu abbia frequentato o meno. Sto dicendo, però c'era il sassarese in Chiavi, un circolo dove era un circolo ricreativo dove si andava a giocare a carte, a bersi il quartino del vino eccetera, ma quando era vivo mio nonno sono sempre esistiti, a Protorese Gianni lo sa, in via Libio una vita c'è stato il circolo dei combattenti, non andava lì a giocare a carte, mi pare il nonno lo chiamava proprio Rubindioru, capito Marco? A chi sa sorriso Rubindioru, Zilleri e Sarlo? Ma così è nata lì, no, infatti c'è dove no, a Rubindioru, la fama l'ho battita a Cassi, bimmi una tazzetta di vino, sempre così mi rispondeva il nonno. Già, tu ce l'hai conosciuto il circolo dei combattenti lì in via Libio? Sì, ce ne sono di circoli a Porto Torre, sì che l'ho conosciuto. Circolo dei cacciatori, dei combattenti, di Viso. Pensa che c'è ancora quello dei combattenti. Storico a Porto Torre, come poi se ragionò la Sassari o una cosa del genere. Ma ragazzino io, proprio ragazzino, capito? E noi a volte entravamo a vedere se ci davano un bicchino di vino, di quelli piccoli, piccoli, piccoli, non ci eravamo mai. Con i miei amici lì che giocavamo in via Libio, capito? Ho avuto 14, 15 anni, 16 anni, non c'era, vai dimmi, vai, prima lo dico a Manduia, era di zio Cosocau, che poi è morto, che è praticamente uno dei fratelli grandi dei pescatori, dai, dei cau pescatori. Poi c'è quello San Galvino, il circo, che conosco. Sì, è quello lì. Già ce n'è, però non capivo se effettivamente era come ha detto Giulio, sì. Io pensavo di lì, invece ho vinto, è come ha detto Nattarino. Sai che guarda la bettola? Ha precato Giuseppe. In italiano infatti si chiama bettola. Ogni tanto ho detto, Pomponio mi porta sempre nei lupanari. Voi sapete cosa sono i lupanari? No, con Giulio fa vedere. Ehi, Giulio, i lupanari. No, non lo so, non lo so, Marco. I bordelli. Non lo sapevo io, non è che sono così forbito. Praticamente lupa in latino voleva dire prostituta e i lupanari, singolo lupanare, erano i bordelli proprio, dove si prostituivano le donne, capito? Ho beccato Giuseppe, ovviamente non lo sentirete, lo sento solo io. Sembra una parola gallurese, sembra quella. Dove andavano le meretrici a lavorare? Veglia, è un bel termine mi, meretrice. È bello come, mi piace come coso, capito? Non è volgare. Poi c'era fallofora. Ci sono tanti siloni miei. Qua. Giuseppe, ciao Giuseppe. Io ti ascolto 7:30, però mi sa che ti sento solo io. Buona serata. No, lo sento anch'io. Claudio, lo senti tu? Claudio non sente niente. Tappati tutto. Un attimino che mi sto preparando per portare il cane. Le prende, già sono qua. Non sento niente io. Giuseppe? Ma Giuseppe chi? Quello di Alghero o Leoncino? Di Alghero. Alghero, no, non lo sento io. Purtroppo non lo sento. Raramente sono riuscito a sentirlo. Poi adesso che è cambiato l'antenna lo sento, non fa niente. Proprio niente, anzi, non si muove nemmeno l'ago. Meno di prima si sente. Poi... Giuseppe, mettiti l'antenna come si deve. Sì, che non la prendo io, la Mazda Turbo, già, perché è nuova, è in condizioni ottime. Beh, perlomeno la direttiva puntata su Sassari, allora manco arriva. Basta mettere la Mazda Turbo, arriva dappertutto, cosa? Non c'è bisogno di direttiva. La direttiva tra l'altro non si può nemmeno installare per questa frequenza. Vabbè, in teoria, ma come dico sempre io, Giulio, le leggi sono fatte per essere infrante. Ma lui è un uomo di 87 anni, non credo che abbia quella mentalità. Lo so. Sì, una Mantova, ma guarda, perlomeno un'antenna come questa. Come questa. Leggera, perché sai, lui di mettere tiranti non avrà voglia. Solo che andava fatto prima, adesso è tardi. Vabbè. Ne abbiamo già parlato, dai. Ma non è che erano... che era cambiata la legge, Marco, che si potevano installare i diritti pubblici nella 27. Oh, dubito, non lo so già. Io avevo sentito da qualcuno che aveva detto così, che era cambiata la legge e che si potevano installare adesso. Però non mi ricordo chi l'aveva detto. Solo in ascolto, se sei SWL, in trasmissione non la puoi usare. No, è vietato anche l'installazione, anche l'SWL, ma te li leggi bene. L'SWL deve avere un'antenna a discone, ok, multibanda a discone, neanche antenna verticale, 5 ottavi come quella che ho io, assolutamente vietato, un'antenna ricevente. Che abbia la ricezione, che vada in ricezione, non in trasmissione. È il solo ricevitore. Esatto, è solo ricevitore. Le antenne direttive sono vietate. Ok. Non ha cambiato nessuna legge, nel modo più assoluto. Va bene, io vi lascio e vado a portare il cane. Se ci siete a dopo, altrimenti ritenete, vi tutti salutati. Ok, ciao qua. Buona passeggiata col cane, allora dai, ci sentiamo domani eventualmente. No, domani voi siete in festa, meglio così, siete contenti, si prende la partita, vabbè, forse non si prende niente. Con quella nazionale che abbiamo non abbiamo nemmeno Berlusconi, comunque speriamo bene, voi dopo vi siete. D'accordo, Cla, ciao di nuovo, alla prossima, grazie per la chiacchierata. Vai Gianni. Ciao Claudio, buona passeggiata, dai, tra poco vado anche io. Tra poco lo porto anch'io giù a fare una passeggiatina. Anche se la voglia non è tanta, ma ci devo andare per forza. Ciao Luca. E Luca non l'avete invitato, no? Ehi, a Luca ci vedi domani? Facciamo la pizzata, ma lui c'è la donna. Domani, a che ora? Alle 8:30 ci dobbiamo trovare la pizzeria. Ma sai cosa, domani io venerdì, tutta la settimana che lavora, almeno venerdì voglio uscire. Se fosse stato di sabato, ci stavo anche, ma venerdì no. Se vuoi venire, vabbè, un giorno già te lo può dare. A Sapolo d'Appio non mi sono organizzato, lì si sarebbe organizzata, tanto lì senza di me non esce. Porta anche lei, tanto noi alle 11 ce ne andiamo, potete proseguire per dove volete. No, io ti porto lì in mezzo ai maschi, ma non fare. No, che maschi, siamo tutti ricchioni noi CP. Vabbè, ma io non gli piacciono i ricchioni, gli piacciono gli etteri. Tanto si sa compagnia, Marco, se ricchio di più sono ricchionerà. Chi è il caporicchione? Claudio, tu comandi tutti i ricchioni? Sì, mi adeguo lui oramai. Ah, se fosse stata qualche donna l'avrei portata io. A lei già piace mangiare la pizza. Sennò la mangio io già. Vabbè, non c'è posto, è un po' piccolo, ma se vai anche, cosa ne so, in 8 persone, te le fa, lì nei Marghinotti, la fa buona, Qua ti fai certe pizze, sto qua è micidiale. Ma la volete ve lo comprate anche per portarle a casa, che erano buone. Fa una pizza che sembra biscotto, veramente buona. Pare un giorno, se capita, organizziamo qua vicino a casa. In pochi, non so, noi quattro, poi non so se vuole venire Natalino, Stefano. A proposito, Stefano pure c'è. Non lo so se viene. Ho sentito che non ce la fa a venire. Ah no? Quanti siete? Siamo un bel po'. Allora ci siamo io, Claudio. Fratta Pignara, Franco. prega, non ci venire. Non cuomare. Così parli con muro, parli. Beh, fatemi salutare a Luca e poi chiudo, vi saluto tutti. Là. Ciao Luca, io sto chiudendo, se è stato tardi almeno per me, io scendo giù adesso. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, ciao Natalino, Marco e quanti ce ne sono in frequenza. Saluto io a tutti. Chiudo, ascolto finalino e poi chiudo. Vai ancora Gianni. Sì, dai, ciao Giulio, dai, buona continuazione di serata, grazie per il questo e ci sentiamo alle prossime. Avanti Natale e poi fai girare. Ciao. Ok. Ciao Giulio, allora, buon continuo di serata, grazie per il questo. Avanti Marco. Ehi, che ha chiuso un attimo, che stavo leggendo. Scusa un attimo, Natali, quando ti piace per l'antenna, quando ti dai detto la voce, ascoltami. E vedrai che risolvi il problema. Bravo, ciao a tutti, grazie ancora per la chiacchierata. Ciao, chiudo. Ciao Giulio, io sono appena rientrato a casa, adesso sono andato a fare le commissioni e sono salito a casa per misurare la glicemia a mamma che doveva cenare. E niente, alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ti ha chiuso? Giulia. Ciao Giulio, un attimo mi stavo documentando, perché questa del discone mi sembra una mega stronzata, scusate la parola. E allora uno se deve ricevere l'HF col Texur non può mettere nemmeno il dipolino, il long wire in dotazione. D'altronde chi ascolta, perché dovrebbe avere solo il discone e non le direttive, o nemmeno le verticali? Cioè, non avrebbe senso. Perché siamo in Italia, sono leggi del cazzo. Se uno non usa in trasmissione che male può fare una direttiva, non ho capito. Consente di ricevere come si deve e basta. Vabbè dai, io riprendo e devo andare a mangiare, se no poi si fa tardi. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Già, magari mi si organizzate, avvisami adesso 2-3 giorni prima, così lo dico a lei. Andiamo a mangiarci questa pizza, la possiamo fare anche qua a Milan Nannis, se te ci sti in casa, però mangio una pizza buona, la birra, c'è la birra, vino ne ha, il vino, so che caso beve il vino solo, ma birra fresca ne ha quanto ne vuoi. Io vabbè, se no ci organizzo da un'altra parte, però no, non è un problema. Non c'è cos'è, che l'abbiamo organizzata ieri, mi stavamo parlando e poi io ci abbiamo deciso proprio in coso. Deciso proprio di andare, non è che abbiamo organizzato chissà da quanto, a me me l'hanno detto ieri. Vabbè, dai, dalla prossima sarà già, dai. Domani penso di mangiarla anche noi, non lo so, vediamo, dipende da come sto di stomaco. Alla prossima, ciao, buona cena, ciao ciao. Ciao Lu, alla prossima. Ciao Concetta, ciao, sentendomi sei Concetta. Ah, io ti sto sentendo, ebbene ti sento, mi sentendoti. Vabbè, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Lu, ciao, buona serata. Ciao Claudio. E Claudio è andato a picchiare un gatto. Ciao Lugari, tu non te la vedi, ma non lo porti? E cosa? Già portato, Ha pure mangiato, se lo vedi mangiando la pizza. Perché è la parte rossa, gli dai? Gliela do io a pezzettini, gliela taglio e gliela do. Giù la mano, giù vedi, che è una cosa che non si chiede. Si sa poi già a me che tutto quello che mangio io vuole lui. E lui può mangiare solo i bordini della pizza, non gli dà il suo che gli fa. Già lo so. Beh, già lì ce la mangiava, poi non ne ha più voluto. I bordi della pizza li mangiava a gogo, e invece adesso non ne vuole più. E vuol dire che non gli piace. Mangiava prima, già li piace, sì. Prima anche noi quando mangiavamo la pizza i bordi li davamo, ma adesso non li mangia più. E i giriato, non è che non li piace, i giriato. E come ti dice, boh, ma i giriato, Domani ci riportiamo alla pizza, calma. E pulimo il bambino attorno. Marco, cosa stai facendo, Marco? No, c'era un fondo di verità, avendo abrogato certe cose, sono state abrogate. Dice, a mio parere rimarrebbe invece in vigore, è lungo da spiegare. giustizia la conclusione che le antenne direttive dovrebbero ritenersi legali, avendo abrogato un certo articolo, però è lunga la discussione, non è così, tu rileggi non vedi roba. Vedi che avevo ragione io. No, aspetta, questo è l'inizio del post, ma ci sono un po' di post. Sono tutti, però mi proponi, ne diventi valenza. Se rimane chi c'ha 50 anni da un'antenna, quando si pratica che già chi c'ha ricavuto tutto. Aspetta, allora dice la nuova normativa esclude e sostituisce la vecchia norma, cioè la nuova norma esclude e sostituisce la vecchia. La normativa diceva che era vietato l'uso delle antenne direzionali, ma la nuova normativa non lo conferma, cioè che è vietato, e non lo esclude, quindi dovrebbe rimanere in vigore il vecchio regolamento, e vedi che non è chiaro. Ma chi ne mette direttive? È una rogna, le devi girare, ci vuole il motore, boh. È interpretazione. E puoi mettere anche antenne filari, tipo un informa. E va in direzione, va direzionale. Sì, mi ricordo che chi non poteva mettere sul tetto antenne metteva di poli, su terrazzini, interni, vedi rosa verde. La verde lo usava anche per prendere la mia figlia, si può. Ne avevo uno io per la banda di su, cazzo, che era pauroso quello di polo. Troppo vecchio era. Poi che era in campagna, la sta lì, quello che andava sull'albero pure, che tirava da una parte all'altra. No, quello era quello multibanda, io sto parlando per la... per quello della chiamata internazionale, per i DX, usciva più forte dall'antenna, della verticale. Infatti un gol. E non riesce a più fare di puli, ci riesce a fare bene e gli arrendono. L'avevo fatto uno franco, capa... pauroso era. Io questo franco non l'ho mai sentito, questo che deve vedere il colore non l'ho mai sentito, e dice che è il marito di Anna, io mi ricordo che c'era un'Anna che modulava dagli punti, se non sbaglio. Sì, Ombra, la collega della moglie di Claudio, praticamente, il marito di Ombra. Ah, ecco. Ma lui mi ha chiamato per nome, ma io non me lo ricordavo che modulava la moglie, sì, ma lui non me lo ricordavo. Perché lui poche volte ci ho parlato io, adesso ci parlo perché sta modulando, ma prima quando modulava la moglie non entrava penso, o parlava solo con la moglie, non lo so. Sì, già entrava. Ma di quanti anni fa stiamo parlando? Gli anni 90. Allora, sappi che Anna è un amatore. Oh, lei anni 90, io nel 90, metà anni 90 ero già sparito. Vabbè, comunque la moglie di Franco era amatore. Non ho mai esercitato, ma era amatore. Va bene, io sono rientrato, sono qua. Vabbè, qua è un pasticcio già, nessuno mette la legge giusta, capito? È a testa di... i forum già lo sai come sono, no Gianni? Lo so, ma è interpretazione quella legge, capito? Ti lascia su chi va. No, ma già Gianni, non ti stai preoccupando, Marco, le leggi per lui sono fatte per essere... per non essere considerate. Via. No, anzi, le prendo in considerazione, ma sono fatte per essere violate le leggi. Basta la legge e trovato l'inganno. Non fatti i varaffini di Franco Panino, che non manco nei ravvini di Tronzati. Lo raggiungo in Brasile. Ma Franco Panino, la buona è come il nipote di Bartolomeo Chisiede, buona anima. C'ho io a casa di Bartolomeo, un telefoneggio. Padri, ho montato un'antenna per Madola, se la vedi. Allora non c'era WhatsApp, non c'era niente. Ha detto, che antenna è? Un'antenna grande, c'ha tre radiali in orizzontale, gira col motore. Ha detto, ma dove vedi che ha portato la direttiva per la 26? Bartolomeo ha detto, ma cos'è una direttiva col motore? Sì. Aveva montato la più grande che aveva fatto la Ecoantenne, una 320, con la 27, 11 metri. Cosa è durato? Le mani? manco 6 mesi. Chissà che la guardia di finanza è andata a casa giù. Mamma mia. Non avevano fatto le soffiate sicuramente. Qualcuno che l'ha voluto male. Perché c'è qualcuno che vuole bene a qualcuno? Beh, questo non lo dici. No. E comunque lui era un po' male, le sta bene. No, per dire. Le antenne di 11 metri sono antenne verticali, qualsiasi tipo di antenne verticali, non direttive. Quindi è stato sempre così e così sarà. Tu immaginate che io ce l'avevo, l'antenna direttiva per gli 11 metri, nuova nuova. E Marco Scorpio me l'ha modificata per i 10 metri, ed è sul tetto, capito? È una tra le 20 della Eco Antenna, simile a quella che aveva montato Franco, forse un modello più piccolo. E Marco me l'ha modificata per i 10 metri e funziona da Dio, meglio della tre elementi che ho, molto meglio perché è monobanda, capito? L'Eco Antenne faceva tanta roba bella, faceva roba anche amatoriale, i famosi stili dell'Eco per la macchina, panne amatoriali, faceva anche verticali amatoriali, la Eco 7 più, la R5, e purtroppo le aziende quando fanno roba buona chiudono, pazienza. Lili, lo diploma l'avevo fatto a California. Anche quello con la bestiolina, è quello che c'ho io, è quello che c'ho io, non è quello stesso di Marco, che fa 40 e 20 e 40, una bomba con di fuoco, una cosa allucinante. Beh, le antenne già si possono costruire, ma che costruisce chi è veramente capace, io non sono capace, non li ho mai costruito, non mi sono mai applicato, per meglio dire. L'antenna che ho era per gli 11 metri, dov'è con antenne Marco? Capito? E lui me l'ha modificata per i 10 metri, ma caracca, tu immaginati con l'amplificatore, non le do più di 500 watt, però con l'amplificatore 1 e 1, in 10 metri 1 e 1 rimangono. Perfetto, regola d'arte, c'è una recezione allucinante. Cosa ne aiuto? Allora, mi fermo, c'è da cercare. In forma cosa mi è caduto? Forma finestra. Eia. Come verticali per gli 11 metri la Eco faceva la Vega con la W, Vega 27. E hanno detto che era comoda perché era telescopica, cioè era uno dentro l'altro gli stili. Poi li sfilavi e stringevi questa vite alla base di ogni stilo. Quattro radiali, assomigliava alla Firenze 2, in poche parole. Anche quella era valida come antenna, però ho aspettato troppo e l'avevano venduta, avevano chiuso le antenne. Guarda, valida per 10 metri la Mantova, non c'è niente a fare, in verticale, la Mantova, quel rattore, che un bavettaccio. Se trovi il corrispondente in verticale, c'hai i segnaloni, a me mi è capitato questa cosa. E non commutare, ero con questo radio e sono passato in 10 metri per accendere l'altra, no, ci sono tutte le antenne adeguate, il più geniale, 9.10, 9.15, 10 metri, mi ricordo sempre a 28.450, ero con la Mantova, qui c'è stato l'accordatore delle 4.40, stazionarie, ero, tutto fatto, boom boom, accordato, l'ho chiamato, era in provincia di Trieste. Ho detto, sembri qua, ho detto, ma tu sei in verticale, ho detto sì, anche io sto usando la verticale della 27, ho detto anche io, sono verticale, verticale, questi segnali da paura, capito? Eia, eia, eia, e tu non mi avevi raccontato una volta dell'Eco su quelle bande lì, e uno è entrato, pirata, pirata, e tu gli hai detto, pirata è la cosa di mamma doia. Vabbè, colpa mia, perché come regola ogni radioamatore deve usare il vizio di dare il nominativo ogni almeno due passaggi. Io ero lì che parlavo, e non davamo nominativo ognuno nell'altro. Alla fine gli centrali ho detto pirata. Pirata è l'ha detto proprio il sassarese, il sacerdote di mamma doia. Io sono ISZero da là, e tu chi sei che mi stai riprendendo? Alla fine è risultato lui pirata. è diventato una specie di ospedale psichiatrico con la banda HF e non solo quella HF. E da tutte le parti, dimmi Fra, sì che ti ascolto. Discesa Florina Florina, sì che arrivi Fra, e beh qua ti già arrivi, magari dagli altri no. Non ci sono problemi, se sei a Florina, se dentro il paese avanti alla chiesa arrivi benissimo. Quasi 9, 6, 8, abbondante. Lo sentite a Franco che è in macchina a Florina? Pronto? Oh, Franco, avanti! L'hai sentito a Gianni Fra? Gianni, non ti sente così, no? Marco, prova tu. Marco, Natalino, idem con le patate. Non ti sentono già, prova. Oh, io sono lì sciocco. Franco, mi ascolti? Anch'io ho attaccato il gioco. Io c'ho 10 watt, ti ho detto. 10 watt con 4,40. Se vuoi attacco anche l'altro, è la stessa cosa. L'hai visto ieri, fortunato amore, se mi sentivo anche col Galaxy, non ce n'è problema. L'hai sentito già, Fra Gianni? Penso di sì, tu lo senti già? No, no, non lo sento proprio per niente. Sento bisbigliare, ma non capisco cosa dice. Non lo sento, Fra, non lo sento bene. Franco, mi ascolti? L'hai sentito adesso che ha attaccato il pulsante? Non ti ascolta neanche lui, no, Fra? No, non è dentro il paese, già. Io perché ce l'ho davanti, capito? Sono, l'ho sentito anche a me. È dentro il paese. E la gente di Fra, già è andata a pigliarti l'ovino. Ah, quello di ieri che c'è. E poi ci avete la pizzata. Vabbè, oggi e domani, domani mangi la fine. Ma anche Anna c'è. Saluta, dai tanti saluti da Anna. Gappa, gappa. Va bene, dai, faccio girare. Marco. Sì, in che paese è? Non la viva qua. Ah, Florina già. Ah, al paese di nonno. Eia, da tanto che non ci vado, ci devo passare però. Sì, passa lontano, ormai non ti fanno più entrare. Visto che nonno tuo è morto. Che antenna c'ha nella macchina? Oh. Perché a Florina se sono già arrivato, altre volte. Boh, Franco c'ha, la PL 800 c'hai Fra in macchina. Ehi, vabbè, avevi fatto quella tarattura, ma l'antenna è quella. Guarda la tua, ce l'ha già. Io non ce l'ho più, ah, sì, la PL 800, no, pensavo la tua. Ok, tu di solito con l'antenna viva riceve bene. Una cosa l'ho fatto, come di Splatterplay. Ehi, già, Splatterplay, tutti. La settimana, ho detto, perché ho fatto settimana a settimana. Una settimana c'avevo la radio di Massimiliano e colpi non le prendeva su un baracchino suo. Poi ho attaccato la LAN 48. Quando ho attaccato la LAN 48 l'ho acceso ed era muto, ho detto ma non funziona più, nuovo, nuovo, è mai usato, perfetto, nuovo, proprio nuovo, no, originale. E dovevo provare le MVP 5. Zitto completamente, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Giro sul 20 c'era Antonello, completamente muto. Col Galaxy Antonello quando va a modulare il canale 20, manco lo smitter si muove, nulla. Il QRM rimane, è come che non ci sia nessuno, come il 440. Ha fatto partire sul 0, così mi hanno fatto ieri quelli del canale 20, che stavano giocando con i lineari. E vabbè già, ogni tanto si gioca. Ogni tanto si gioca. Se fossi stato via Pascoli avresti visto che... Allora, si tornava come ai vecchi tempi, però io sono lontano e quindi non sento nessuno. Non vedo, non parlo, non sento, diceva quello. Massimo viene splatterato, gli aveva abbassato il macchino. No, ma è perché ho in macchina, non c'è problema. Come mi sono lontanato non ho più sentito. Ehi, vabbè, perché in città bisogna usare... Pochi watt, anche se la radio è buona, è grande, è da potenza, però io ormai, per cui siamo rimasti, mi sono abituato a parlare così, anche se sono contrario perché la radio lavora male, però 5-10 watt sono più che sufficienti per non rompere le scatole a nessuno, assolutamente. Va bene, va bene. Fra, stai scendendo dalla macchina quindi? No, no, Fra, quando ci tu seguì a magari a nanna io. Dai, salutami Anna, ci vediamo domani alle 8:30, ok? Ciao Fra, mi saluta Franco a tutti, poi ci vediamo domani. Ho avuto modo di parlare domani, ok. Chi sei rimasto qua? Io, Marco, Gianni, poi... Io. Natalino, vai Natalino. Sì, capo, cosa vai? Io Franco non lo sento, non posso fare nulla, tu devi arrivare. E voglio che mi faccio sentire, no? lo sento io, ho bisogno di andare al buio. No, non lo sente neanche Marco e Gianni, non ti preoccupare, ma sta chiudendo che sta scendendo dalla macchina. Mi sono chiamato per vedere se arrivava, ma io ce l'ho di fronte, Solinas. Va bene, va bene. Sì, già, veramente, ma io mi ricordo, il primo che avevo, non era così selettivo come questo. Forse aveva problemi, non lo so, quella radio, però questa è molto più performante. Ma ti sappi tu, hanno fatto diversi modelli, no? No, non penso. Però beh, c'è un modello che è diverso, e c'ha le manopole al posto di avere quei tasti che si abbassano, guarda, al posto di avere quelli c'ha le manopole, però meno male siamo quasi tutti uguali. Questa è molto selettiva. Una bella ricezione, funziona molto bene, funziona molto bene, è molto, insomma, non prende colpi, niente, va bene, va bene. L'altra che avevo, mi ricordo, Antonello lo sentivo lo stesso, invece con questa no, non si sente niente, vabbè, comunque è importante che funzioni tu, c'ho le mani in chifi. Vai Marco Condor, allora ce la vuoi la smoto la direttiva, mettela a piazzi, te lo anche il rotore della Stoller, rotolino per farla girare, tutto completo, contro box, tutto direttiva, te la piazzi, poi faccio le foto e le mando all'Escoradio. Se metto con una cosa del genere, al proprietario del terrazzo gli viene un infarto davvero. No, era un discorso così, tanto per vedere. Solo che tutti dicono, uno dice sì, l'altro no, la direttiva è libera, ha cambiato la legge, la direttiva non è libera, ma la legge non ne mette nessuno. Ma noi non le dobbiamo mettere direttive, per fare di ex, non me ne ho fotte nulla, non ne ho fatto manco di ex, appena appena, solo un giorno, poi niente di più, dai. Piuttosto, ma l'avevate contattato Eugenio, no? No, vedi, mi sono adesso mandando un messaggio su WhatsApp, ma sicuramente sta lavorando Eugenio, sta facendo i turni massacranti, ma è detto l'altra volta. E tutte le sere impegnato. Infatti vedi che non sta entrando manco in radio. Però glielo mando un messaggio per correttezza. Sto scherzando Marco. Lo sai, io sono un bastardo. No, ma c'è stato un momento qualche anno fa che qualcuno aveva tolto questa voce, poi io mi ero subito in un contesto di una riunione eccetera, avevo chiesto quello che era interessato e mi ha detto ma nel modo più assoluto se ne è parlato, ma non c'è stato nessun decreto legge che ha cambiato quello che è già attualmente in vigore, e quindi penso che sia rimasto tutto così, non lo so. Io ce l'avevo e da sempre, quando io ho due, una della Eco Antenne e una della Lemma. Quella della Lemma, ti dico che i radiali sono molto più grossi rispetto a quello della Eco, lo sai Marco, o viceversa, correggimi se sbaglio. Della Lemma, e boh. Una della Lemma che mi aveva dato Roberto Quadrato di scorta, infatti la dovevo, l'avevo già messa tutta a posto, tutta la diaria eccetera, tutta così, perché la dovevo dare a una persona e poi si è comportato da infame e non gliel'ho più data, capito? Però sempre in mansarda, è sempre in mansarda. Vabbè, comunque ce l'avevo io, erano tutte e due per gli 11:20, non li ho mai montate, mai. E poi una volta con Marco, la volta Marco mi ha detto te la modifico io, me l'avevo modificata le misure esatte, ma è, guarda, di una perfezione, infatti non l'ho tolta. L'errore che ho fatto, l'ho lasciata nell'altro sistemino piccolino dove ci sono le direttive VEU, anziché metterla nel sistema grande, capite? Ma lo faccio quel lavoro, lo faccio, lo metto in alto, sotto la verticale e la faccio girare come me lo manda per i 10, perché è favolosa veramente. Ok, vai Gianni per Natalino. Non lo leggi il messaggio? No, se sto parlando lo posso leggere. E dai, io vi lascio che devo portare giù presto, anche se è bravo voi, perché lo portate in giro. Lo devo portare giù a fare un po' di pipì. sembra che me lo stava chiedendo il portarlo, come sono uscito dal portone, ha sollevato la gamba, è stato 2 minuti con la gamba sollevata, poverino. Ma mai io fra l'ho portato giù, l'ho portato in giro stasera, capito? Sono andato in farmacia, l'ho portato in farmacia, poi siamo scesi, insomma l'ho portato molte volte. Anche se vicino a casa, lui avrebbe bisogno di correre un po'. È solo che ci vuole un posto dove non scappa, perché non è che mi finisce tanto, non so. No, già. Io non lo sto lasciando per niente, sempre guizzario. Senti, se lo direte, andate a pigliare. E glielo lascio io, perché sta ridendo, cazzo, mi ha mandato un messaggio da bastardo, di quei più bastardi che non ce n'è. Io non mi pare piangere da ridere. Bene, allora domani, Claudio, c'ho la febbre, mi c'ho anche la tosse, non vengo. Vai. Me ne butta la porta, mi sei dico che non vengo, vedrai. Ci vengo a pigliarti, non ti preoccupare, vengo a pigliarti. Sì. Pomponio, ci c'è l'ascolto, sì o no? Ancora là, boh. A finire che arriva cotto se lo invitiamo, Pomponio, capito? Ma che... Bene, guarda, te l'ho detto, mi piacerebbe la Fainé, però porca miseria, io a malapena riesco a finire la pizza, a malapena. Se mi avessero dato mezza pizza, ma le mini pizze dove le fanno lì? Le pizze per i bambini, quelle piccoline. Tu ci mi piglio, Fainé e pizza. La do io una pizza, di la vuoi, ma non sono mini le mie. Quelle sono pizze a mano piena, a pala di picadiglia. A pala meccanica. Se non te la do io la pizza, se non busco la pizzana ci va la mia. Uia, una di destra e una di sinistra, me. No, davvero, in certe pizzerie fanno le pizze per i bambini, quelle piccole. Sono la metà delle pizze normali. Se riuscirei a mangiare Fainé e pizza. Però vabbè, dai, non voglio pretendere troppo. Facciamo la pizza e il mister, la taglio ti dà la pizza e io il mister. Adesso glielo chiedo alla cameriera, me la fa una pizza con i finocchi? E ti dice come no? Ma io avevo un amico che era tutto particolare, quando riportavo l'acqua controllavo bene se era oligo minerale, voleva la pizza con le uova, tutte cose strane, no? Un giorno cazzo siamo andati in campagna e l'abbiamo messo, era fissato. Sente che oligo minerale, tutto il rilending, non ricomprimia nulla, ed era solo la sua fissazione. E molti sono fissati, tipo, io bevo solo acqua Santa Lucia. No, io bevo tutto, anche l'acqua del cesso. Allora, l'acqua, detto dal dottore, vorrebbe cambiare ogni tanto, non si beve mai la stessa acqua, perché le diverse acque hanno diverse proprietà. Mentre invece se tu bevi solo un tipo di acqua, magari più calcarea, ti fa venire i calcoli, invece bevendo tanti tipi i calcoli non ti vengono. E montagna te non lo sa, si è fissata con la Sant'Anna, anche se costa un bel, la Sant'Anna c'è gente che se la compra a casa, proprio, cioè, a go-go proprio, perché sono fissati, è una fissazione. Lo stesso per l'acqua panna, dice, io prendo solo acqua panna. Buon viaggio, io bevo acqua, punto, acqua, qualsiasi acqua sia, anche a San Martino ho imparato a bere, dai, che sapeva molto di sali minerali, no. No, Santa Lucia o San Martino, adesso non mi ricordo, la sentivo che era, sapeva i sali minerali, bevo anche quella che mi danno bevo. Ah, la San Martino a me piace tantissimo, anche con la menta metto quella di la San Martino. Guarda che i sali minerali, per dire, d'estate, noi li espelliamo col sudore, quindi praticamente quel tipo di acqua lì vi reintegra i sali minerali, è un'acqua buona per quello. Beh, sì, infatti gli atleti bevono non solo, vabbè, l'acqua, ma quel Gatorade di Isostade, che praticamente è acqua ricca di sali minerali. Io una volta l'ho bevuta, a me fa schifo, a me non mi piace, come faccio, ma non ha sapore di nulla, non sento nessun sapore. Ma con cosa? Con Isostade? Quello Gatorade, quello all'arancio, Allora, Eugenio, gli ho mandato il messaggio e mi ha scritto: non posso, sto lavorando. Grazie dell'invito, alla prossima, non mancherò, ciao e grazie a tutti. Ok. Stefano, sto aspettando che mi risponda, non l'ho ancora visto. Eia. Ma io una volta già ho assaggiato una di queste cose proprio tecniche. Non lo so, avevo odore come di pipì, sembrava proprio la pipì che fa, mia, acqua e sali minerali. Non era gradevole. Invece cose più commerciali, mi proprio che li bevi così, li vendono dappertutto, allora sono migliori. Ma le cose troppo tecniche, anche quelle cose che vengono a Decathlon, sono troppo strane. Sai, il Red Bull, la tira di Red Bull che si stanno bevendo da noi, tu non ne hai idea. Se le bevono le mettono in mezzo agli scaffali pure, fanno acciappalli, che a tempo rischiano di bersi la roba che li menano, però se la bevono lì perché la lasciano poi negli scaffali, vuota la mattina. Ehi, guarda, ti dirò, il Red Bull troppo di fragola, sai, un po'. Invece da Eurospin vendono questa Energy Cola, che ha un sapore misto tra le Red Bull e la Coca-Cola, e contiene lo stesso quelle cose lì, adesso andare a leggere mi viene male, vitamine, mi aspetta, acqua, zucchero, acidificante, anidride carbonica, allora caffeina, tipo taurina, vitamina e tutte quelle cose lì, acido pantenico, vabbè, B6, B12, le vitamine, insomma, tipo, però è un sapore molto più gradevole, perché è un misto tra Coca-Cola e Red Bull. Quella, quando sei un po' giù, mi prendi, bevi, dovrebbe un po' tirare su, dovrebbe. Mi sarà l'incendiamento, cazzo, con i zuccheri che vanno. I zuccheri ce li ha, maledizione. E purtroppo le bevande senza zucchero, ti dirò, non mi piacciono, hanno un sapore l'onfio. No, la Coca-Cola senza zucchero zero è buona. Io l'ho comprata da poco, ma è molto buona lo stesso, senza zucchero. Quindi non sono un po' mamme. Quando la cosa ci vuole, invece la sagra che tu fai la roba senza sale, c'è molta gente che cucina senza sale, perché dice che il sale fa male. Già, tutto male fa, lo zucchero fa male, il sale fa male, il grasso fa male, ascolti, di qualcosa dobbiamo morire, riprendi la tariffa. Sì, aspetta, facendo cosa? Bisogna chiedere ai più vecchi di quel paese che durano fino a 102 anni, 103 anni, che cosa hanno mangiato in vita loro, perché l'unica cosa è quella. Io sono sicuro che nei paesi affettano lardo, affettano salame, salsiccia, formaggio. 102 anni sono campato. Già, nonno faceva colazione a Saramo, Gaggio e la Beata di Vino, capito? È morto per un raffreddore a 98 anni. Non è detto che... Dicono che certi alimentatori fanno male, ma forse nel nostro corpo c'è bisogno di grassi, c'è bisogno di tutti i nutrienti. Molta gente elimina la carne, mangia solo verdure, mangia questo per non ingrassare, ma i nutrienti vogliono, tutti i nutrienti del corpo devi mettere, non dico in grossa quantità, però in quantità giusta li devi mettere tutti. Certo che sì, vabbè, quelli niente smoke, niente, capito, diverso. Una mia figlia profa mi ha fatto una centrifuga, ma mi dicevano allombrando kiwi, mele, pere, ananas, anguria, uno, il serano, il sugar, ma buona, bella, bella, bella, tutti i giorni me la fanno. sedano con la frutta. Le carote. Sì, c'è la centrifuga, tutto c'è l'aria qua a casa. C'è la centrifuga, c'è il bimbi. Io adesso sto facendo per cambiare una torta. Ho fatto col bimbi. 20 minuti è pronta. Tutto rifatto col bimbi. E ma quello costa un sacco di soldi, l'ha fatto 1600 euro quella botta. No, c'è la centrifuga, c'è tutto lui. Tu è sempre la mattina 6-7 ingredienti ci mette di frutta, 6-7 tipi di frutta, in più ci aggiunge sempre le carote. Ci sta Marco, va tranquillo. Ci sta la sera, non ci stanno le carote nella frutta e centrifugate, ci sta anche fino a. Prova bella a vedere, una cosa squisita, fa molto bene per i tumori, per tutto. Quindi a Marco ce lo possiamo mettere in mezzo? Sì, sì. Beh, ci stanno per il filo. Un po' di scariche hai già? Io? Guarda adesso, ora, 1, 2, 3. No, all'inizio un po', quando premi sente. Questo qui è come ammassi il tasto. Fisso, scaricherò le sentite. Guarda, a me nel mio piccolo mi piacciono i frullati. C'è volte metto fragole, banane, o mela, pera, quello che c'ho ci metto. Con il latte. Mamma mia, senza il latte sarei morto. Sono un lattofilo. Io lo mangio, con il biscotto. No, Stefano mi ha risposto lo stesso, ciao, magari, sono ancora al lavoro, non riesco, grazie del pensiero, saluto a tutti, quindi come prevedevo la stagione per lui ancora non è finita, meglio così. Vabbè, noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, siamo quelli e quelli andiamo, poi la prossima Stefano già, ci sentiamo sempre per telefono. Come a Sassari magari ci organizziamo di nuovo, anche se siamo in pochi andiamo a Mattesi. Già, prendilo bene quel PTT. Dove discende ai carichi? Perché è la moto che non sto usando e quindi sicuramente è dovuto a quello, bisogna mettere un po' di CDC. Grazie, ci devo mettere a Lucca, però mi ha detto di avvisarlo un po' di giorni prima perché lo deve dire alla ragazza, se no è un casino, dai. Che non esce se non ci tu. E poi venerdì lo so, la ragazza lavora, quindi è arrivata venerdì, magari se di sabato Luca già viene. Sì, infatti l'ha detto, sabato andrebbe bene. Lo so, ma ne approfittiamo, tu sei in ferie, Marco in pensione, Valerio è pensionato lo stesso. Io sabato mattina sono libero, però sabato pomeriggio c'è un impegno. Capito, sono Natalino lo stesso in pensione, quindi andiamo venerdì sera a Biglielucci, prima della prossima volta, quando c'è Stefano disponibile, ci organizziamo diversamente e andiamo dove, magari in un posto dove si sta, insomma, dove possiamo accontentare anche a te. Sì, sempre lì, ancora non era tolta quella ventola, cosa ti aspettando? Te la pulisca io. Che si sciolga, che si spani tutto. Lucina ogni tanto si sveglia, di colpo, glielo sbatto a terra quell'alimentatore, dai. Ehi, già sono in pensione, sì. In ferie. Ehi, per me sei pensionato, tu non in ferie. Tu fai la vita da pensionato. Uno che in ferie esce e recupera il tempo perso. Tu sei proprio pensionato. Lo so, purtroppo sono così, anzi Gianni è molto più attivo. Caspita, a Gianni piace sentire musica, karaoke, eccetera. Molto più attivo di me. Anzi, quello che manca a me lo fa Gianni, dai, sono contento. Ma Gianni ce l'ha nel sangue la musica. Io lo conosco un mare di tempo, lui un bel impianto in macchina, bello tosto a casa. Poi c'è la figlia che canta, quindi capite, è chiaro che è appassionato di musica. Quindi non è questione di vecchio o giovane, come ho detto prima, è questione proprio di mentalità. Lui è appassionato di musica, è chiaro che gli piace la musica. Oh Gianni. D'accordo con me. Gianni. Eia. E Marco, Marcolino, che musica ascolta? Che passione ha? No, Marco canta anche, quando la sorella ha fatto un non sai che hobby ha, cioè che tipo di musica, se musica leggera italiana, estera, musica discoteca, rock, non lo sai? No, esattamente no, lui è molto appassionato di Pokémon, di queste cose così, giochi della PlayStation, tutte queste cose qui, più che musica gioca con queste cose. Eia. Io ho iniziato la musica classica appena nell'età dello sviluppo, me l'ha messa in testa mamma, e poi ho iniziato tipo dagli ACDC, poi agli Iron Maiden, poi da lì mi sono espanso fino ad arrivare alle cose più bestiali proprio, tipo Napa non detto, che quella non è musica, è l'antimusica. Io la musica l'ascolto tutta tranne quella classica, a me non piace però musica classica. Piace Wagner, Wagner molto, mamma mia, Wagner mi fa venire i brividi, vedi Beethoven no, più, io sono più per Wagner, piaceva Hitler, mi Wagner, è detto tutto. Poi ascoltavo tutta la musica dei Goblin, perché i Goblin sono quelli che praticamente, non so se lo sai, hanno fatto tutte le colonne sonore dei film di Dario Argento. Molto molto interessanti in quegli anni là, e io ero molto appassionato, tanto è vero che c'è una collezione da Argento da Profondo Rosso in poi, ce l'ho tutta. Poi che ne so, mi piaceva Michael Jackson vecchia maniera, gli U2 vecchia maniera, vari generi, vari stili, i Dire Straits, poi che ne so, c'è un'infinità di, poi di certi autori mi piace solo una canzone, capito? Non mi piace tutto, perché certe cose sono, cioè non mi colpiscono mi certe canzoni, ma magari di un gruppo me ne piace una in particolare, così sono io. E tu Claudio? A me piace molto la musica, diciamo anni 80, non parlo del 60, perché anni 80, musica italiana io ascolto, a me che tu non è che mi piace assai, musica discoteca e macchina. Musica rilassante, capito? Musica rilassante, infatti ascolto sempre Radio Italia io, e basta, anche RDS qualche volta, ma ci sono canzoni belle, siccome quella una radio che stanno sempre parlando, non fanno altro che parlare, musica ne mettono ben poca, allora ascolto Radio Italia. Io RDS 105. Sì, 105 qualche volta, scusi, ma di solito metto Radio Italia io, se no quando c'è Luciano, allora ormai sono in giro, perché lui fa da mezzogiorno, mi pare, o dalle 11:30 a l'una, ascolto Radio del Golfo, arriva molto bene nella mia zona, e mette quella musica lì che piace a me. Luciano di Fraia. Sì, a Battea Viacca. Una volta siamo andati a ballare con Liliana al Fazio, fa le cena lui, metteva musica, cioè, comincia a dire, mi ha riconosciuto, ecco a voi il ballerino numero 5 con una signora bellissima che balla il tango eccetera eccetera, tutti girati, guarda, non parla più praticato, ma ha fatto batti la viacca io. Chi c'è nato può farselo liscio, non è buia la vita a Gennarino, che il padre è morto da poco, non è buria la vita, capito? L'altro fratello in comune, l'altra, la sorella, lo stesso lavora impiegata, ente pubblico. Eddo, solo guiscio sa fa, solo guiscio, e boh. Diceva il padre e la mamma che si conoscono molto bene. Inutile, guiscio lì a Rubanco, quando era ancora. Dovevi legare al banco, perché mamma era quella al nautico, lui ha studiato al nautico, ma adesso non si sia manco diplomato, si è ritirato. A chi è do... il banco invece i libri va via la radio, sempre la radio va via ancora. Signor Giannalino è morto, pure a Ritura, e lo conosco molto bene, io lo conoscevo molto bene, anche la madre conosco bene. La madre sta facendo un po' fuori di capo, E io lo so. Ma se Giannino è morto quest'anno, all'inizio dell'anno mi sembra che è morto. C'era nel giornale, c'era un bellissimo articolo che ha fatto il comune di Porto Torres, veramente molto bello, grandi ricordi. È stato il primo venditore di cozze a Porto Torres e Genere i Frei. E aveva la pescheria dove c'era gelateria di fronte, era un po' più avanti. Dove c'era gelateria, come si chiama, il Capriccio. Nella piazzetta del Capriccio che c'è la fontanella, lì c'era la pescheria, lì dove c'è, cos'è quella pizza al taglio, cosa fanno? Sì, dove c'è quella pizza? Sì, lì l'ho conosciuto da ragazzi, c'è la fontanella, era la gioia, l'aveva fatta Buniedo, ma che quando non vedeva, attaccava la bomba, parava i gozzi, e la bomba con la cesta di quelle bianche che portano il pane fuori. Tu figurati, bei tempi, allucinante. Vabbè, ragazzino, proprio ragazzino, con i pantaloni gossi, Marco, mamma mia. Bei tempi, ah. Belli veramente, belli veramente. Proprio se, ragazzino io, 12enne, 13enne, era veramente Porto Torres, allora posso dire che era con la P maiuscola, poi morto io ragazzi, morti ogni volta che c'erano Porto Torres, mi venne la disperazione, per carità, già, tu già l'hai conosciuto, vi sei 30 anni, a Porto Torres che lavori, quindi il boom della Sir, quando si chiamava Sir, 50.000 abitanti c'erano a Porto Torres, allucinante. Conosciuti quei tempi lì, caspita. La gente di Porto Torres è quasi tutta la buona bagliarata industriale, non solo Porto Torres, i paesini limitrofi, lavoravano quasi tutti gli a Porto Torres, c'erano in pullman che andavano e tornavano, sempre pieni di operai, troia. Allora sì che ce n'era di lavoro, caspita. Sono cambiati in meglio, ma cambiano tutti in peggio. Già, trasfertisti c'erano dalla Sicilia, dal continente, tubisti, soldatori, meccanici, carpentieri, cosa tutto non c'era. Però c'era la costruzione sarda, dove lavorava la Bonale Carlo Tittano. C'era Cermelli, c'aveva 250 operai, mi Cermelli, ma stai scherzando. Era una cosa allucinante, trasfertisti, un bel. Era Gurumbino, era dalla Fatti, la Medusa, dalla Fatti, era Gurumbino, era uno dei primi ristoranti, assieme a Secchia, la Medusa, in piazza dove è Maria, anche via Petroni, a dire. Andavano tutti i trasfertisti, c'era il cantiere della Girola, erano 200 persone, ed erano tutti di fuori. Tutti, molti si sono sposati a Porto Torres, tipo, non so se te lo ricordi, a Centauro, che parlava lì dal cantiere della Girola, che poi si è sposato con la figlia di Tadù, il pescatore. Sì, via Principessa Giovanna Maria. Esatto, bravissimo, confondo sempre via Petrone, invece l'altro. Erano le uniche trattorie a Porto Torres che erano piene, a pranzo, convenzioni. Mi ricordo perché ero ragazzino io andavo a prendere il pane duro per i conigli, mi mandava il nonno. Ma era Gurumbino e da Maria. Maria, ma sacchi interi di pane duro, capisci, sacchi interi di pane duro, allucinante. Allora ce n'era di gravati, c'è un bel giro, tra Pianini mi ricordo che io portavo la merce da questa signora che faceva la messa per gli operai della Pianini, e poi adesso vabbè abita lì a Sala di Puzzi, signora Maria. La Pianini, responsabile ingegner Frattus, quello col pizzettavo bianco, non so se è morto, c'è ancora vivo, l'ho conosciuto. Sì, la Viannini, come tante altre, è il ditta esterna della CIR, allora poi si chiamava CIR, ma per quanto riguarda tutto il posto, la Girola, cosa vera Marco, cosa c'era di gente a lavoro, portatore di trasfettisti, la paura. Come la CIR è passata Enica, ha cominciato a calare oggi, è proprio chiamata la città di ferro perché è un montone di garraggio, tutti gli impianti fermi, tutti spenti, mi ricordo la sarda Laterizi, alla ferriera sarda, che il capocantiere è Gigino Lore, che il fratello del proprietario, buon anno che è morto, sono morti tutti e due, no, forse Gigino ancora no, Gigino c'è l'età di mamma, il compare di mamma, il fratello del padrone dell'officina turitana, quello che è morto, c'è la ferriera sarda, sì. Cosa vera. Purtroppo, la zona industriale ha fatto lasciare il terreno a tanti contadini, eccetera, eccetera. La zona industriale a lavorare lì, poi è andato il fallimento, sono rimasti senza lavoro, senza terreno, senza nulla. Ha dato, perché io mi ricordo mio cognato che mi diceva che non si faceva un cavo, che lui praticamente puntava i pezzi, perché lui era carpettiere in ferro, puntava i pezzi e aspettava che i saldatori gli saldassero tutto il vento, poi si preparava, poi lui li preparava, li smussava, li faceva, ma dice prima di saldare ce ne voleva perché dovevano usare il cinto, flesse, la vetro di trasformamento, poi usare quelli dentro di magici, eccetera, eccetera. E per fare una saldatura ci mettevano un bel po', perché erano tubatoni grossi, quindi se restavi seduto fumandoti la sigaretta, non ti sfasciavi la testa. No, ma sono stato anch'io a Lini che prima di entrare dove sono. Quindi mi ricordo perfettamente, c'era un sacco di Lasacci, che è stata una delle prime imprese, poi ha cambiato tre volte nome, insomma c'erano tante, ma il boom dentro Leni che l'ha fatto Cermelli, tutte le gru erano tutte all'interno, ma tante aziende dove lavorava Bartolomeo Fisiele, la Trasportores, che era di Umberto Ferrarese. Capito? È un sacco di aziende che poi sono andate male perché il lavoro dentro Leni che non c'era più, e quindi è chiaro che i trasfettisti sono andati a finire a Gera, alla raffineria di Gera, molti sono andati a lavorare alla Saras, molti sono andati alla Rumianca, molti sono andati, capito? Sono spariti tutti. È pronto? Allora signori, siccome qua mi chiamano, ci è pronto, sono 9:20. Io vi saluto, grazie della compagnia a tutti, ciao Gianni, ciao Marco, Natalino, diciamo anche a Concetta che è in ascolto, ci vediamo domani, dai. Ci sentiamo in radio prima, non so, comunque in ogni caso fatevi sentire qua, la radio accesa. Alle 5, alle 6 la radio accesa, fatevi sentire, qui ci mettiamo d'accordo, intanto alle 8 scende qua Valerio, voi sapete quello che dovete fare, io aspetto Valerio, nel caso Marco dovesse risponderti Antonello, diglielo tu, se vuole venire, noi alle 8:30, io alle 8 posso prenderlo, se vuole venire, ok, al limite mandami un messaggio su WhatsApp. Ciao a tutti, buonanotte, a domani. Buonanotte, anche io la devo portare il taglio, no. Questa non ne ho voglia perché mi hanno operato fino al piede, mi hanno un po' scavato e quindi sono un po' uscito. Già ti è costata già quella volta? Ci sei già un paio d'anni, no, presso a questa cosa, o di più? È quasi 3 anni, insomma. via, speriamo di concludere, perché anche al lavoro adesso è un casino, un casino. Vogliono che me ne vada in pensione, ma purtroppo non me ne vogliono dare, pensione la devo fare. Va bene Claudio, aspetta un attimino già così. Ciao Claudio, buonasera, buon tutto, dai. Ci aspettiamo domani. Volevo chiedere, ma gli impianti della zona industriale, no, adesso cosa sono? Enichem, Gianni? Allora, certo. Con Enichem ha comprato. Io via, tutta Ferrari, c'è ragione Claudio, sono tutti gli impianti fermi, ci sono pochi impianti aperti. Quello della gomma, dove lavora anche l'amico io. Ce ne sono pochissimi. Sono tutti fermi, gli impianti sono tutti rugginosi, tutti i macchinari sono tutti rugginosi, se vai non ce n'è uno che cammina, tutta ruggine. E quindi producono ben poco, così è. Producono poco e niente. È tutto garraggio, come ha detto Claudio, così è. Ce n'è ben poco. Te l'ho detto, quello della gomma sono sicuro perché ci sta lavorando un amico mio da tanti anni. Hanno cambiato 6-7 volte le ditte, ma loro ci sono sempre. Mi riassolvono, dai, capito? Sono cooperative che prendono l'appalto e poi se ne vanno, oppure prendono l'appalto, lo viene trovato per cooperativa, li deve riassorbire però, per legge. Ma secondo te nei pianti fermi ci saranno ancora materiali pericolosi? Ce n'è, ce n'è. Guarda, anche sottoterra mi hanno beccato di questi materiali nascosti e quelli che ci lavoravano lo sapevano che li sotterravano lì, non dicevano nulla. Disastro ecologico fanno. Sostanze chimiche, mi, quella roba lonfissima. Il cognato lì si è preso la leucemia. Beh, lui era vicino all'impianto dell'ammoniaca, quindi respirava odore di ammoniaca tutto il giorno quando lavorava. Lui era la Montupi, alla sera Montupi, e c'era l'odore dell'impianto dell'ammoniaca che si era fatto venire la leucemia. Ma loro non sono non erano tenuti a usare mascherine di protezione, filtri, quelle cose lì? Insomma, Marco, i filtri e le mascherine si fanno lavori quando ci stai andando a lavorare, respiri, quando te ne stai andando via, che sei cambiato tutto, respiri quell'odore, e poi giorno per giorno, quando ci lavori tanti anni, si accumula la roba. Beh, quello sì. Quello sì. È una rogna mia avere tutte protettive, mascherina, guanti, eccetera, eccetera. Mamma mia. Va bene. Sono le 9:20 quasi. Beh, io mi accendo la TV, mi guardo Paperissima e poi quello che c'è, qualche film. Boh. La biocco, mi sta venendo. Dai, già, senta, piano piano. Non c'è nessuno che può portare il cane lì, no, Marco, no, niente. No, non ci sono solo. Ma no, guarda, ci vado piano piano, già, che ce la faccio. Cammino col lato del piede, non ho appunto. Anche se dovrei portare una scarpa ortopedica che costa 380 euro e ti rimborsano 70 euro e basta. Questa scarpa ortopedica è di plastica dura ed è tipo marziano, ce ne presenti stivali in plastica dura, all'interno c'hanno questa camera d'aria, sembra una camera d'aria, tu gonfi e si inamidizza come se fosse inamidata, no? E prende la forma del piede, capito? Di modo che non lo faccia muovere. Eia, però sembri un uomo dello spazio, poi così è, un astronauta. Tu pensa a me andare a lavorare con questa roba, come mi vedo mi comandare a casa. Un circolo chiuso lì però, un circolo chiuso. Te le immagini che bisogna girare con le scarpe in antinfortunistica, con la suola, con l'inframezzo d'acciaio. Ma io ho l'esenzione. La scarpa antinfortunistica mi aveva fatto prendere le dita gialle, le unghie gialle. infezione, no, no, non è forse più vivo. Guarda, mamma ne aveva comprato un paio così, non sapendo nemmeno che erano. Dava fastidio alle dita questo guscio di metallo che c'è sopra, perlomeno a me dà fastidio. E avevo preso anche degli anfibi, no? Da paracadutista tedesco, e hanno lo stesso la punta in ferro. E come tocca mi dà fastidio. No, non sono per la punta in ferro io, non la sopporto. No, ma adesso lo fastidio, qui a quella di portare, sbatti, ti fa diventare le dita dura come se ci fossero le mattone, capito? Le dita tutte le unghie diventano gialle e tutto attorno al dito rosso. E quando me l'ha visto il dottore ha detto no, no, facciamo subito l'esenzione per tutti, praticamente ti togliamo la scappa di infortuni, si caduture del lavoro, e quando glielo ho fatto vedere quello che mi stava facendo mi ha fatto il pugno che io ne sente la punta per la spalla, naturalmente stando attento perché se mi cade un pelato qualcosa sui piedi mi faceva peggio di quello che è, però per farti male l'ho proprio annullato, non è quello che sapete. Poi sono scarpe dure, tutto il giorno portare queste scarpe che erano pesanti, non è per me, no. Io le scarpe, quelle da tennis, che sono belle comode, e ci cammino bene. Vabbè, ci saranno i primi conto, quelle da tennis mi hanno fatto entrare il vetro dentro, sono state anche fortunati che non mi sarebbe entrato. Quello sì, però la comodità è diversa, spostati in testa. Non è così, Marco. Beh, te le immagini a camminare sempre tutto il giorno, tutti i giorni con le scarpe antinfortunistiche, e sembrano due ferri a stilo, perché a parte la punta dovrebbero avere tra il plantare lì e la suola una piccola lastra d'acciaio per evitare, sai, chiodi, quelle cose lì, sono due ferri da stilo al piede. Non è dovrebbero, hanno il ferro, la pianta in ferro. Comode non esistono, no? Che siano un po' morbide dentro, no? Sono tutte una rogna, a quanto ho capito. Come fanno a essere morbide, Marco? Se c'è il ferro dentro, come fanno? No, non è possibile, dai. Per tipo mettere tanti strati di cose, ma le scarpe rimangono sempre rigide. Capito? Fate quello. Bravo Marco, dai, ti saluto, che io voglio portare giù il paese, se no quello lì, poverino, che alla fine si mette a piangere, quella lì, tu. Poi si sente gli africani adesso che stanno abbaiando, quindi vuole scendere giù a tutti i costi, capito? Vabbè, dai. Ciao. Dai, buona passeggiata al cane, ci vediamo domani, ok? Ciao, buonanotte. Ciao Gianni, alle prossime. Oh, ciao Natali, eri ancora qua, pensavo che avessi chiuso, dai. E ci vediamo domani, che mi sta calando l'occhio, la palpebra, non riesco a tenere gli occhi aperti. Mi devo muovere, se no mi addormento. Sì, no, eri qua che facendo una cosa di pesca. Ehi, mi è entrato anche Valerio. Ciao Valerio, buon rientro a casa, dai, a domani. Ehi, ciao, buona serata anche a te. Ehi, saluti da parte di Valerio, Natali. Grazie, altrettanto. A 380. Bene, dai, chiudo anch'io, dai. Adesso accendo la TV, spero di non addormentarmi subito, sennò poi mi viene a gre dormire la notte, capito? Se mi addormento presto. Buonanotte a tutti, ciao. Ah, sì.